dann werden wir also jetzt den letzten Vortrag unseres Seminars hören. Herr La Salvia aus Rom spricht über die Moderati, also über die dritte große Strömung, die in unserem Panorama bis jetzt noch fehlt. E se permette io traduco così ogni tanto. Sì, ricordiamo Talamo, sì, che... Ja, es ist eben sehr schade, dass Herr Talamo nicht kommen konnte, den wir ja von früheren Seminaren, gerade auch hier in Trient, gut kennen und dem wir wünschen, dass er bald wieder reisen kann. Tanti saluti e auguri a Talamo, di cui speriamo che... Tanti saluti e auguri. Dunque, la difficoltà di un discorso sul movimento dei moderati in Italia nasce dal fatto che mentre gli studi si sono soffermati spesso sui personaggi maggiori o sui gruppi più significativi a livello regionale delle realtà degli stati regionali del movimento, difficilmente si è tentata appunto una visione di sintesi, salvo appunto in alcuni saggi fatti anche così da autori importanti, maturi, eccetera, o passerenti per quanto riguarda i cattolici liberali. E quindi, diciamo, ricondurre un poco, secondo i fini anche di questi incontri, ad una sintesi complessiva, diciamo, questo problema, presenta quindi da questo punto di vista alcune difficoltà che evidentemente risolveremo con il criterio di una tentativa di approssimazione. Resta naturalmente del tutto valido il giudizio già espresso che i confini tra movimento moderato e conservatore sono molto mobili e quindi entriamo diciamo così nel merito dei problemi. Risale a Francesco De Santis una un discorso, diciamo così, che nella storiografia italiana ha avuto, malgrado tutto, una grande continuità. E cioè questo che il Risorgimento italiano, questo discorso che il Risorgimento italiano altro non sarebbe che il risultato di un contrasto tra scuola liberale e democratica. Armate l'una contro l'altra, dice De Santis, nella letteratura, nella metafisica, nelle scienze, ed anche nel fragore delle battaglie e delle rivoluzioni. È una tesi, diciamo così, che non sostenne poi solo De Santis, anche esponenti delle correnti democratiche, penso per esempio a certi giudizi di Giuseppe Montanelli nella Storia d'Italia, e mentre, diciamo, sostanzialmente l'atteggiamento dei democratici è stato quello di ricavare, diciamo, da questa affermazione di un conflitto permanente nel Risorgimento tra moderati e democratici, un giudizio di primogenitura nello sviluppo del movimento liberale, del movimento nazionale d'Italia, da parte moderata, forse anche a causa delle diverse responsabilità che poi ai moderati sono appartenute sul piano della direzione politica del paese, i moderati hanno invece piuttosto sottolineato l'idea di una concordia discorde, forze contrapposte estrinsecamente, ma in realtà concordanti ad un unico risultato, che era appunto quello della formazione dell'Italia. Diciamo che di questo orientamento rimangono tracce abbastanza profonde nella nostra storiografia. Basti pensare a quello che è ancora uno dei punti di riferimento, sebbene sia un testo scritto oltre 50 anni fa, anzi oltre 60 anni fa, che è ancora oggi fra l'altro importante perché è una ricchissima bibliografia sul tema, e parlo del libro di Ciasca sulle origini del programma per l'opinione nazionale, dall'impostazione del quale dipende direttamente un volume che ha avuto una certa fortuna nella nostra storiografia, che è il saggio del Greenfield sui liberali lombardi. Diciamo che più autonoma rispetto a questa impostazione è stata la ricerca che sostanzialmente Ciampini ha condotto sul gruppo dei moderati toscani, studi su Viesse, su Capponi, sui rapporti appunto di su Tommaseo, quindi sui rapporti di questo gruppo, e evidentemente i saggi più recenti, gli studi più recenti, come quelli citati appunto di Maturio, di Passerelli. Ora, un primo problema che credo debba essere affrontato per, diciamo, chiarire il discorso, e spero che anche alla fine poi della relazione questa cosa apparirà forse con maggiore chiarezza, è che, diciamo, nel nostro linguaggio noi solitamente usiamo questo concetto moderato per esprimere una continuità di classi dirigenti che sostanzialmente va oltre l'unità fino alla crisi della destra storica e all'avvento della sinistra. Secondo me è una tesi appunto che rischia di confondere i caratteri specifici del movimento moderato, che indubbiamente sono diversi tra il 14 e il 48, sono diversi appunto per la fase cavuriana e sono diversi per la fase, diciamo, che caratterizza la direzione politica dei moderati dopo l'unità. Direi che in Cavour, rispetto ai moderati pre-quarantotteschi, vi sia una più matura consapevolezza del ruolo delle classi medie, che da una parte pone la politica cavuriana al riparo da paure immotivate verso la rivoluzione. C'è a proposito un giudizio molto significativo di Cavour all'indomani del 48, quando appunto Cavour sostanzialmente afferma di non temere in Italia il verificarsi di una ipotesi rivoluzionaria, poiché sostanzialmente una tale ipotesi farebbe rapidamente accorrere sotto le bandiere moderate molti esponenti della democrazia. E ciò si basava ovviamente sulla valutazione del carattere sociale delle forze che aderivano alla democrazia, che erano sostanzialmente appunto borghesi e quindi da questo punto di vista certamente non disponibili, dico, ad un processo rivoluzionario come quello per esempio che il 48 europeo in qualche caso aveva delineato. Per quanto poi riguarda il moderatismo post-cavuriano, sempre per indicare alcuni aspetti generali questo, diciamo, corrente, sottolineerei che in questo caso l'eredità politica cavuriana non è sempre del tutto tranquillamente recepita, del tutto del tutto accolta senza discussione. Questi moderati che si presentano sulla scena politica come il risultato di un compromesso tra diverse componenti regionali si trovano uniti sulla necessità di difesa della continuità dello Stato, fondamentale argine contro i pericoli di una ripresa del movimento democratico che nel 60, come sapete, appunto ha avuto una delle sue fasi più significative. È questo tema che caratterizzerà ampiamente il dibattito postunitario, il tema del piemontesismo, e mi pare che in questo caso sia opportuno diciamo riportare il giudizio di un toscano, Giorgini, il quale appunto vicino al Ricasoli sente pienamente questo problema, cioè questo problema del, direi, del pedaggio che occorre pagare al Piemonte, e nello stesso tempo fa di questa, diciamo, necessità un elemento, come dire, che va accettato, poiché i tempi della maturazione di una effettiva coscienza nazionale che unifichi il paese vanno al di là delle prospettive immediate. Aggiungerei tra parentesi, diciamo, che proprio in questo caso comincia a circolare una idea che significativamente assomiglia anche a certe valutazioni della sinistra, che soltanto, cioè l'idea che soltanto una grande guerra potrà, nella quale l'Italia combatterà da sola, potrà effettivamente portare a compimento l'unità morale del paese. Possiamo rifare. Ja, am Anfang wurde betont, dass es zwar, was diese Moderati angeht, Studien über die wichtigsten Persönlichkeiten gibt und über die deutlich voneinander geschiedenen Gruppen aus den eigenen, aus den einzelnen Regionen, dass es aber wenig zusammenfassende Gesamtdarstellungen gibt, wie sie etwa Maturi oder Passerin vorgelegt haben, und dass es schwierig ist, eine solche Gesamtdarstellung der Bewegung und der Partei zu erstellen. Zunächst bleibt die Feststellung gültig, dass die Übergänge zwischen den Moderati und den Konservativen sehr beweglich sind. Und dann hat er erinnert an einige grundsätzliche Urteile, dass etwa schon Francesco de Sanctis von einer gewissen Kontinuität gesprochen hat, wonach eben das gesamte Risorgimento das Ergebnis sei des Dauerkonfliktes zwischen der liberalen und der demokratischen Schule, einer Auseinandersetzung, die sich in der Literatur, in der Philosophie, in der Wissenschaft und in der Politik nun ausgedrückt hätte. Und von linker Seite hat Giuseppe Montanelli auch vor langer Zeit im Wesentlichen dasselbe gesagt, also die Frage dieses Dauerkonfliktes zwischen Liberalen und Demokraten. Die Moderati selber haben eine Art Concordia-Diskurs behauptet. Sie haben gesagt, dass also die Liberalen und die Demokraten dasselbe Ziel und dasselbe Ergebnis gehabt haben, nämlich die Bildung des nationalen Staates. Und hier wurden also einige Autoren erwähnt. Ciasca, das ist 50 Jahre her, nicht? Quando ha pubblicato Ciasca, quando nel, credo nel 16, nel 19. Schon vor dem Ersten Weltkrieg, dann Greenfeld in seinen Arbeiten über die lombardischen Liberalen, und es wurden weitere Autoren bis in die Gegenwart genannt, dass also im Wesentlichen eben Moderati und Demokratici dasselbe Ziel gehabt hätten. Die Es wird dann oft behauptet, dass es eine Kontinuität in der moderaten Führungsschicht gebe, die von den Anfängen der Bewegung bis über die Einigung hinaus, also bis 1876, bis zu dem Moment reiche, wo die Rechte durch die Linke abgelöst worden ist. Jedoch hier wird gesagt, dass die Epochen, die Perioden klarer zu unterscheiden sind, dass man also unterscheiden muss zwischen der Moderati-Bewegung zwischen 1815 und 1848, Cavour-Zeit und die Zeit nach der Einigung. Dass zum Beispiel Cavour ein sehr viel reiferes Bewusstsein der Rolle der mittleren Klassen gehabt hätte als seine Vorgänger. Und dass Cavour genau eingesehen hätte, dass die Demokraten im anderen Lager eben auch bürgerliche gewesen seien, dass er deswegen keine Furcht vor einer Revolution gehabt hätte, weil, wenn die Revolution nach Italien kam, die Demokraten da selber auch bürgerlich sich großenteils auf die Seite der Moderati geschlagen haben würden. Insofern, also Cavour mit seiner Einsicht in die Bedeutung der Mittelklassen bedeutet einen neuen Abschnitt und dass eben auch der Moderatismo nach Cavour etwas Neues sei, weil eben die politische Erbschaft Cavours zwar akzeptiert, aber nicht ohne Diskussion akzeptiert worden sei. Man hätte zwar auf der einen Seite diese Vorherrschaft der Piemontesen bedauert, man hätte sie nur hingenommen, weil man sie als vorläufig notwendig betrachtet hätte, weil man eben eingesehen hätte, dass in Gesamtitalien die Ausreifung des politischen Bewusstseins noch nicht gediehen sei. Und da wurde jetzt zum Schluss daran erinnert, dass in diesen Kreisen des nachcavourianischen Moderatismus auch eben erwogen worden sei, ob nicht erst ein großer Krieg, welchen Italien möglichst allein führen würde, zur wirklichen moralischen Einigung und zur Gleichberechtigung, also mit den anderen Nationen, führen würde. Also drei Perioden des Moderatismus bis 1948 unter Cavour und von der Einigung bzw. nach dem Tode Cavours an. Se, diciamo, nessuno ha dubbi che la fase alta del movimento moderato tra il 14 e il 48 è segnata dagli anni 40 del secolo XIX, molto si è discusso sul problema delle origini di questo movimento moderato. E queste origini si sono ricercate tra il riformismo settecentesco e la riflessione sulla esperienza della Rivoluzione francese. Non c'è dubbio che nei moderati opererà l'illusione, la chiamo illusione perché il 48 in parte la smentirà, di poter ricreare le condizioni di una collaborazione tra intellettuali e autorità. Ma per non fare su questo un lungo discorso analitico che ci porterebbe via molto tempo, direi che il problema di questo rapporto tra moderatismo e riformismo settecentesco si pone a metà strada tra la posizione di Alfieri e quella di Pietro Verdi. Alfieri, che indubbiamente ha alimentato, questo abbiamo studi abbondanti, che indubbiamente ha alimentato la formazione di una cultura nei giovani, basti pensare a tutto il gruppo piemontese in questo caso, ma non solo a loro, e che poi di fronte alla rivoluzione francese ha questa svolta misogallica che i francesi stessi derideranno accusando appunto Alfieri di essere un amante della libertà sui generis, ama la libertà quella che si veste del palio romano e dei coturni romani, ma che di fronte alla libertà vera, quella cioè che nasce in terra di Francia, immediatamente torna indietro. E la posizione di Verri, che in un appunto sua opera tarda, La storia di Milano, che fra l'altro darà poi vita a una polemica nel 24, negli anni 23-24 dell'Ottocento, il quale appunto nella Storia di Milano giunge proprio, diciamo, alla vigilia della Rivoluzione francese, alla scoperta della impossibilità di fidarsi delle concessioni del principe e quindi della necessità di una trasformazione in senso costituzionale dello Stato, della società. Dico che si muove appunto tra queste, a metà strada tra questi due problemi, nel senso che appunto la posizione moderata dovrà costantemente fare i conti con il problema della rivoluzione, il problema della pressione delle forze appunto democratiche, e d'altra parte mirerà costantemente, avrà costantemente presente questo problema di una trasformazione delle istituzioni, delle politiche, vero, degli stati. Ma questo momento, o vuole? No. Es geht also darum, dass zwischen 1814 und 1848 die eigentliche Hochphase des Moderatismo in den 1840er Jahren gewesen ist. Davon wird wohl später noch die Rede sein. Aber hier ist jetzt zunächst die Frage gestellt, woher diese Bewegung stammt. Und da ist eben verschiedentlich eben gemeint worden, dass der Moderatismus, diese gemäßigt-liberale Bewegung, ihre Ursprünge hätte zwischen dem aufgeklärten Reformismus des 18. Jahrhunderts und dem Nachdenken über die Auswirkungen der Französischen Revolution, das für diese frühen Moderati am wichtigsten gewesen sei, die illusionäre Vorstellung, dass man also die Zusammenarbeit zwischen Intellektuellen und staatlicher Autorität, die im Reformismus wiederherstellen könne, und dass insofern also die Ursprünge so halbwegs lägen zwischen Alfieri und Pietro Verri, welch letzterer in seinem Spätwerk Storia di Milano über den früheren Reformismus hinaus, über den aufgeklärten Reformismus hinaus zu der Entdeckung gekommen sei, dass notwendigerweise der Übergang zum Konstitutionalismus anzustreben sei. Dass also für die Grundhaltung der Moderati entscheidend gewesen sei, einmal das Problem der Revolution und zum anderen die Umgestaltung des Staates zum Konstitutionalismus. E direi che proprio con il tema della rivoluzione e con gli esiti di questa rivoluzione, che appunto i prodromi del pensiero moderato si trova immediatamente a confrontarsi negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione francese. Da questo punto di vista direi che vi è un giudizio dei moderati che pur partendo dalle riflessioni del dottrinarismo francese, pone più rigidamente il problema della rivoluzione come rottura della legittimità e quindi un rifiuto della rivoluzione che non coinvolge soltanto la fase giacobina del movimento rivoluzionario, ma che coinvolge anche il giudizio sulla 89, sul movimento dell'89. In sostanza, la rivoluzione non solo non cambia, perché poi in realtà nel suo processo, come si è sperimentato, si ripropone come tirannia, una tirannia appunto che può variare e diciamo appunto proporsi come tirannia democratica o tirannia demagogica. Tirannia, cioè, per intenderci, del giacobinismo, ma tirannia anche del napoleonismo, di quello che esso ha significato, appunto, nella vicenda della storia d'Europa. Ma, appunto, essa si presenta come una rottura di un sistema la cui legittimità viene difesa. Non vi è quindi alcuna possibilità di mettere in discussione il 91, cioè la fase, diciamo, che si apre con scusate, il 91, parlavo del 93-94 ovviamente, pensavo. Non vi è alcuna possibilità di mettere in discussione la fase giacobina se evidentemente non si coinvolge in questo giudizio lo stesso movimento che inizia nell'89. Come vedete, quindi, il giudizio sulla rivoluzione è un giudizio che prende decisamente le distanze dalla rivoluzione stessa. Probabilmente, diciamo, in questo giudizio vi è anche quel clima culturale che un po' anima l'Europa, che è un clima culturale di stanchezza, che nasce dalla caduta delle illusioni, questa idea prima, appunto, diciamo, di matrice settecentesca, di un progresso senza traumi, e che invece è sfociato nella rivoluzione, e questa rivoluzione che è stata terrore, dittatura militare, e poi l'occupazione francese, e via via. E ben presto a questa delusione, diciamo, si aggiunge anche la delusione nei confronti della restaurazione. Ricordo che negli anni tra il 13 e il 15, o il 14, diciamo la fine del 14, le grandi potenze antinapoleoniche avevano fatto a gara nel promettere agli italiani una vera libertà che li avrebbe liberati dalla tirannia napoleonica. E direi che in questo senso l'esperienza culturale di due figure come quella di Foscolo e Leopardi sono a loro modo significative. Foscolo che abbandona l'Italia, diciamo che indicherà agli italiani questa nuova istituzione, come fu detto poi, che è quella dell'esilio volontario, e la posizione di Leopardi che, per esempio, in un canto come quello all'Italia è abbastanza esplicita questa polemica, appunto, che nasce dal senso di sentire intorno a sé un clima di stanchezza, di sfiducia, di crisi dei valori che avevano fino allora animato le generazioni che si erano fatte avanti sulla scena politica. Posso? Sì. Also das große Ausgangsthema ist die Revolution und sind die Ergebnisse der Revolution. Zwar geht die Bewegung aus von den französischen, den Lehren der französischen Aufklärung, aber sie begreift die Revolution als einen Bruch der Kontinuität und lehnt die Revolution insgesamt ab. Nicht nur die jakobinische Periode, sondern auch schon die Ereignisse von 1789 und auch den Napoleonismus. Die Legitimität soll verteidigt werden, die ganze Revolution wird abgelehnt. Und in den Anfängen dieser Bewegung ist auch das veränderte geistige Klima in der Zeit nach der Revolution, eine gewisse Müdigkeit, Enttäuschung nicht nur über die Revolution, sondern auch über die Restauration. Denn in den Jahren 1813 bis 15 hatten ja die Großmächte, verschiedene Mächte, den Italienern alle möglichen Versprechungen gemacht über die Freiheit, die man ihnen nach der Überwindung der napoleonischen Herrschaft gewähren würde. und diese Besprechung und diese Versprechungen waren alle nicht gehalten worden. Und charakteristisch für dieses Klima in den ersten Jahren nach 1814 scheint zu sein Foscolo, der Italien verlässt und der also als erster eben das Exil als italienische Lebensform vorlebt, und auf der anderen Seite Leopardi, der eben sich wehrt gegen diese Müdigkeit, gegen die Ermattung und gegen gegen den Zusammenbruch von Hoffnungen und Aussichten. Se volessimo tentare una periodizzazione del movimento moderato tra il 14, 15 e il 48, dovremmo distinguere sostanzialmente tre fasi. Una prima fase che, diciamo, comprende il quinquennio tra il 15 e il 20 e che si conclude con i moti del 20-21, una seconda fase che copre l'arco tra il 20 e il 40, ma con l'avvertenza di cogliere il momento di salita del movimento liberale in Italia, del movimento moderato in Italia, il movimento liberale in Italia è, diciamo, negli anni 30, nella svolta degli anni 30, poi cercheremo di vederlo un momento meglio, e la fase tra il 40 e il 48. Con il 48 i conti di questo movimento moderato si rivelano in qualche misura sbagliati e direi che si ha il passaggio appunto ad una fase diversa, che sarà quella che si aprirà appunto con il 49, ovvero con la problematica successiva. Posso prendere? Sì. Also wenn es um 18, die Zeit von 1814 bis 48 geht, also beginnend von dieser eben geschilderten Ausgangsdisposition, dann sind drei Perioden zu unterscheiden. Eine erste kurze von 1815 bis 2021, die bis zu den revolutionären Bewegungen in Neapel und Piemont geht. Dann eine lange von 20 bis 40 mit deutlichem Höhepunkt in den 30er Jahren, von dem dann gleich die Rede sein wird. Also dann die Phase von 40 bis 1848, und im Jahre 1848 stellt sich dann heraus, dass die Rechnungen dieser frühen Moderati nicht aufgehen oder nicht aufgegangen sind, und es beginnt dann nach 1849 eine andere Periode. Das ist ja, wenn ich das mit einem Satz einfügen darf, vergleichbar mit dem Übergang zur Realpolitik in Anführungszeichen in Deutschland. Also hier jetzt geht es um diese drei Perioden, 15 bis 20, 20 bis 40, 40 bis 48. Quali sono i momenti significativi di questo primo periodo? Da un punto di vista culturale, da un punto di vista politico. Da un punto di vista politico io considererei importante la rapida caduta appunto delle illusioni sui governi restaurati. Una rapida caduta delle illusioni che, diciamo, in Lombardia si delinea intorno agli anni 17-18, il fallimento del progetto della Biblioteca Italiana di cui si parlava, che è soltanto il fallimento, però ecco, questo va inteso, lo dicevo anche ieri, va inteso come fallimento del tentativo di fare della Biblioteca Italiana il giornale fondamentale della intellettualità italiana. Per questo il giornale si chiama Biblioteca Italiana, poiché si articola intorno a un progetto di organizzazione, diremmo, degli intellettuali italiani, sotto ovviamente la direzione culturale di una politica che è quella appunto a cui pensa l'Austria. Rapidamente si esaurisce anche, forse ancora più rapidamente che in Lombardia, si esaurisce questa aspettativa in Piemonte. Nello Stato Pontificio la politica di Consalvi e, diciamo, la simpatia col quale nel resto dell'Italia sono accolti i motu propri con i quali appunto di Pio VII, con i quali appunto si avvia una politica di trasformazione dello Stato Pontificio, che per esempio in alcuni intellettuali lombardi addirittura, ma molto rapidamente e molto brevemente, fa pensare ad una possibilità di rivolgere verso Roma alcune aspettative di una possibilità di ripresa del movimento riformatore, e a Napoli queste illusioni direi che neppure si delineano. La posizione appunto del Borbone è una posizione molto arretrata che soltanto la politica dei Medici e le resistenze, diciamo, della burocrazia di formazione settecentesca e anche di formazione murattiana riesce a contenere, tipico in questo senso il problema, il caso dei rapporti tra Stato e Chiesa, nei quali appunto soltanto nel 18 si riuscirà ad arrivare a un concordato proprio per queste resistenze, vero, degli ambienti, come appunto poi già ieri di questo si parlava. Infine, sempre per sottolineare i problemi politici, diciamo, che competono la sfera politica, la rivoluzione del 20 e del 21. La rivoluzione del 20 e del 21, nella quale si, diciamo, matura, giunge a maturazione questa convinzione che la possibilità di un successo dell'iniziativa rivoluzionaria appare assai precaria, assai improbabile. Ma d'altra parte, e sono, diciamo, due elementi che ci interessano, proprio intorno agli esiti della rivoluzione del 20-21 si delineano due problemi che appunto si riproporranno nella successione riflessione successiva del movimento moderato. Da una parte la posizione di Balbo. Balbo rompe con i suoi amici, con i quali ha mantenuto una posizione costante di collegamento con questo gruppo dei Concordi, con Santa Rosa, eccetera, proprio sul problema della non riconoscimento che egli intende dare alla rivoluzione. Si stacca cioè proprio sul problema della riaffermazione della difesa della legittimità, e si delinea nettamente il problema della indipendenza. La rivoluzione del 20 e del 21, pur con tutte le sue debolezze, trova l'elemento decisivo di crisi nell'intervento dell'Austria, nell'intervento della Santa Alleanza. Non so se vuole. Ma non ho capito bene la posizione di Balbo. In che senso Balbo inizia una strada nuova dopo la... Ecco, nel senso che Balbo non intende, non accetta, diciamo così, la prospettiva rivoluzionaria sulla quale Santa Rosa e gli altri sembrano muoversi, Santa Rosa in parte riluttante, che è quella appunto di seguire il movimento fino alle estreme conseguenze della rottura dell'accordo che si era delineato con il principe. Su questa strada appunto Balbo rompe, dice che appunto invece bisogna rispettare, diciamo, questo. Che cosa bisogna rispettare? Bisogna rispettare il principio di autorità, la legittimità del potere, quindi la rivoluzione deve essere, come dire... Ja, es wird die Frage gestellt nach den entscheidenden Momenten, entscheidenden Elementen für die Bewegung in der ersten Periode. Und da werden erst in der Politik einige Stichworte gegeben, dass der schnelle Zusammenbruch der Hoffnungen oder der Illusionen, die man auf die restaurierten Regierungen gesetzt hatte. Das ist in der Lombardei schon 1817-18 der Fall mit dem Scheitern jener Bibliotheca Italiana, von der gestern die Rede war, also jenes Unternehmens, jenes Versuchs, die italienischen Intellektuellen zu sammeln im Zeichen einer von Österreich betriebenen Politik. Und noch schneller sind solche Hoffnungen auf die restaurierte Ordnung zusammengebrochen in Piemont und auch im Kirchenstaat, wo eben Comsalvis Politik des maßvollen Übergangs keinen Konsens mehr hatte und wo sich in Neapel herausstellte, dass dort eine ganz rückständige Politik wieder aufgenommen wurde, die nur vorübergehend durch Leute wie den auch gestern erwähnten de Medici und durch eine Bürokratie, die sich in der aufgeklärten Zeit und unter Murat gebildet hatte, nur vorübergehend noch abgebremst werden konnte, aber sich dann die reine Reaktion durchsetzte. Und das entscheidende Moment sind dann die Revolutionen von 1820-21, in denen eben einmal sich die Überzeugung durchsetzt, dass diese Revolutionen äußerst problematisch sind und nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen, dass dann eben zwei Probleme klarer gesehen werden, nämlich erstens die Notwendigkeit, auf die Revolution zu verzichten, Beispiel Balbo, und nicht die Autorität als solche in Frage zu stellen, und wo andererseits die Frage der Unabhängigkeit und eine gewisse nationale Komponente erstmals aufkommen, und zwar wegen des österreichischen Eingreifens und wegen des Ausschlags, den Österreich beim Niederschlagen dieser Revolutionen gegeben hatte. I fatti significativi dal punto di vista culturale, quindi del, diciamo, dibattito ideologico, sono caratterizzati da quella che, diciamo, nella letteratura si chiama la prima ondata romantica e che trova la sua più alta espressione nel Conciliatore, e in un fatto, diciamo così, in un fenomeno che nasce intorno alla riflessione che si sviluppa in Italia intorno all'opera di Sismondi, La storia delle repubbliche italiane del Medioevo. Quest'opera di Sismondi ha una importanza rilevante nel dibattito ideologico, culturale di questi anni. Innanzitutto appare come una prima proposta di una lettura unitaria della storia d'Italia. Inoltre, essa ripropone una vecchia questione del dibattito culturale italiano, cioè quella del ruolo e della tradizione cattolica nella storia del paese. Il giudizio di Sismondi è un giudizio che sottolinea come la tradizione cattolica degli italiani abbia differenziato questo popolo rispetto alla Germania, dove invece c'è stata la riforma, come la tradizione cattolica sostanzialmente si identifichi con un infiacchimento del carattere morale degli italiani. Ora bisogna tenere presente che Machiavelli, Alfieri, Dante sono tre grossi miti della cultura italiana in tutto l'Ottocento, ma questa ripresa del motivo machiavelliano ha il carattere di porre il problema di una interpretazione unitaria della storia d'Italia. E il problema di una interpretazione unitaria della storia d'Italia significa cercare, diciamo così, le origini della italianità, ricercare cioè i principi che caratterizzano un popolo, che ne configurano i caratteri salienti della sua storia e che, diciamo, gli danno un'identità. La diffusione di questa opera di Sismondi indubbiamente è enorme. Sappiamo con certezza che è conosciuta ampiamente negli ambienti moderati piemontesi, e a proposito citerei una lettera di Provana a Luigi Ornato, che osservava appunto come Sismondi per primo fa noto le ragioni degli avvilimenti per cui voi e io e pochi altri italiani fremiamo. E qui mi interessava sottolineare non soltanto questo giudizio su Sismondi, ma anche questa, diciamo, osservazione che ha un certo interesse della ancora sostanziale pochezza del movimento moderato che si coglie in queste parole. Voi, io e pochi altri italiani fremiamo. Sì. Allora, Sismondi sostiene che questa cattolicità ha reso più deboli gli italiani. Sì. L'ozio degli italiani è il frutto di questo abbino. Also nach den politischen Ereignissen oder Einflüssen nun zwei oder drei kulturelle aus der Diskussion jener Jahre. Der erste Einfluss kommt von der ersten romantischen Welle, die in jenen Jahren Italien durchzogen hat und die in der Zeitschrift Conciliatore eben ihren Ausdruck gefunden hat. Zweitens wird als sehr wichtig bezeichnet das bekannte Werk von Sismondi über die Geschichte der italienischen Republiken im Mittelalter, ein Werk, welches sehr weit verbreitet wurde und welches versucht, eine einheitliche Sicht der italienischen Geschichte zu begründen, welches nicht diese oder jene, sondern die Republiken Italiens überhaupt behandelt und welches zwei große Probleme stellt, zur Diskussion stellt, nämlich erstens die Bedeutung, welche der Katholizismus für Italien gehabt hätte und zweitens die Frage nach einer gesamtitalienischen Identität. Es wird unter anderem hervorgehoben, dass die katholische Tradition Italien von Deutschland unterscheidet. Es wird auch behauptet, dass die katholische Tradition Italien innerlich geschwächt hätte. Es ist also eine gewisse Rückkehr zu Vorstellungen von Machiavelli oder auch von den Vorstellungen Dantes über die zweifelhafte Bedeutung des Papsttums. Aber vor allen Dingen ist es eine einheitliche Interpretation der italienischen Geschichte, in deren Mittelpunkt die Frage nach einer nationalen Identität, nach einer Nationalgeschichte steht. Nel pensiero sulla storia d'Italia, Balbo avrebbe dedicato a Sismondi e alla storia delle repubbliche italiane del Medioevo un ampio commento, non del tutto positivo, ma nel quale, oltre a riconoscere erudizione e imparzialità allo storico ginevrino, egli si interessava proprio al tema. Egli da una parte riconosceva che poche altre storie erano state tanto lette ed erano tanto penetrate in profondità nella cultura italiana, ma soprattutto sottolineava il tema che dalla lettura, diciamo, dalla diffusione dell'opera di Sismondi si erano diffusi alcuni atteggiamenti che caratterizzavano alcuni orientamenti politici. Egli intanto sottolineava come nell'opera di Sismondi si faceva confusione tra repubblichette moderne, il modello ginevrino per intenderci, e i comuni, e soprattutto sottolineava due stoltezze, come le chiama Balbo, diffusesi a causa di quest'opera. Il mito di Roma, e vedremo che questo tema ci interessa, perché è il problema appunto di una alternativa a questa tradizione, a questa identità nazionale che gli italiani cercano, appunto, questa tradizione nazionale è nel Medioevo o è nella tradizione romana? E dall'altro quello di un ritorno ad una esaltazione delle repubbliche medievali, e Balbo qui sembra dire quindi che si diffonde una certa tendenza municipalistica, diremmo in altri modi. Quindi, diciamo, collocherebbe ovviamente all'interno di questa influenza sismondiana una certa tendenza che poi in Italia avrà una grossa fioritura, che è appunto questa tendenza al municipalismo. Vuole... Ja, zu denen, die sich ausführlich mit Sismondi auseinandergesetzt haben, gehört Balbo, der gerade die politische Verwendbarkeit des Sismondi-Buches diskutiert hat und der neben vielem Positiven, was er in Sismondis Buch durchaus anerkennt, eben doch bemerkt, dass aus dieser Form der Beschäftigung mit italienischer Geschichte und Identität zwei gefährliche Wege, zwei Torheiten hervorgegangen sind. Entweder der Rom-Mythos, dass man sagt zur Überwindung, diese Aufspaltung muss man sich an den römischen Mythos erinnern, oder aber, dass man gerade die Tradition dieser vielen Einzelstaaten, der Republikine, nun also allzu hoch schätzt, also entweder sich auf das antike Rom bezieht oder auf das mittelalterliche Italien und je nachdem eben zu einer übergroßen Einschätzung der römischen Bedeutung, Einheit und der mittelalterlichen Aufteilung in viele Italien kommt. Roma o Medioevo dunque, è chiaro che l'alternativa significa sostanzialmente una scelta di campo e di schieramento proprio su un tema che avrà molta importanza nella riflessione moderata, la funzione della Chiesa in Italia. Non a caso la risposta alla storia sismondiana sarà quella che verrà da Manzoni, le osservazioni sulla morale cattolica, un'opera che fra l'altro Manzoni, che appunto è un cattolico certamente, ma come dire, è un cattolico che è passato attraverso la cultura settecentesca e così via, scrive malvolentieri, pressato sembra da questo suo consigliere spirituale che poi sarà vescovo di Pavia, e nella quale sostanzialmente Manzoni risponde e respinge la tesi di Sismondi e sostanzialmente comincia a delinearsi il mito neoguelfo. Il mito cioè che la storia d'Italia si configura sostanzialmente come una storia che nasce nella funzione che la Chiesa ha svolto in Italia, nasce nel ruolo che la Chiesa ha giocato nella lotta contro l'impero, e là vi è appunto la nascita di una storia italiana. Dovrò un po' accelerare i tempi, credo. Vielleicht. Ja, also er hat jetzt kurz aufgewiesen, dass aus dieser Kontraposition Sismondi-Balbo wie ich schon dazwischen übersetzt habe, eben diese Gegenüberstellung Rom oder Mittelalter gekommen ist und dass darüber das Nachdenken, das für die Moderati äußerst wichtig gewordene Nachdenken über die Bedeutung der katholischen Kirche für die italienische Geschichte begonnen hat. Und das als eine erste Antwort auf Sismondi Manzoni, seine Riflessioni sulla Morale Cattolica, geschrieben hat, in der er Sismondis Behauptungen zurückweist und zu widerlegen sucht und in der eigentlich der neoguelfische Mythos schon ersteht, wo nämlich nunmehr die Rolle der katholischen Kirche in Italien als Nation bildend und integrierend herausgestellt und wo behauptet wird, dass das Papsttum, in dem es Italien vor den Kaisern verteidigte, gegen die Kaiser verteidigte, dass das Papsttum eine italienische Führungsrolle gehabt hat Und damit sind wir eben am Anfang der neoguelfischen Richtung, die ja innerhalb des Moderatismo dann eine der ersten konkreten politischen Bewegungen geworden ist. L'altro problema è quello che si riassume nell'esperienza del conciliatore. Problemi di tempo ci costringono, diciamo, a essere rapidi nel giudizio. Io comunque dico subito che non condivido un giudizio che assimili il conciliatore sic et simpliciter alla tradizione, all'esperienza moderata. Il conciliatore trova il suo momento di validità e di importanza nella storia della cultura italiana piuttosto dalla funzione di contraltare che egli tenta di svolgere rispetto alla biblioteca italiana, e cioè rispetto a quel progetto di aggregazione degli intellettuali italiani che viene dalla biblioteca italiana e che il conciliatore appunto invece cerca di proporre su un piano di autonomia rispetto all'Austria. Non è un caso appunto che il giornale si chiami Conciliatore, cioè un giornale che intende accettare anche una diversità di tendenze. Al Conciliatore collaboreranno uomini che con il romanticismo non avranno nulla a che vedere, uomini che si troveranno anche in dura polemica di lì a pochi anni, basti pensare appunto a come Romagnosi nei suoi costituti, arrestato nel 20, tratta appunto questi gruppi del Conciliatore, li tratta proprio male, in particolare a Pellico, che è stato uno che ha rapidamente reso confessioni agli inquisitori. Ma diciamo l'importanza del Conciliatore sta in questo fatto, cioè sta nel fatto che esso tenta per la prima volta, al di là di quelle che sono state le tradizionali distinzioni di schieramento, di tradizioni culturali eccetera, tenta un tipo di collaborazione, di raccordo tra gli intellettuali che evidentemente si contrappone alla politica della Biblioteca italiana e quindi agli orientamenti dell'Austria. Also das zweite konstitutive Element neben diesen historisch-historiografischen Reflexionen sei die Rolle des Conciliatore a Firenze. No, a Milano. A Milano. Des Conciliatore gewesen, also jene Zeitschrift, die an der Stelle, anstelle der früheren Bibliotheca Italiana erneut versucht, und zwar erstmalig versucht, ohne ausländischen Einfluss, die italienischen Intellektuellen, wie der Titel sagt, versöhnend über Gegensätze hinweg zusammenzufassen und eine Zusammenarbeit dieser Intellektuellen zu begründen, ein Diskussionsforum und ein Mitteilungsforum für alle italienischen Intellektuellen zu bilden. Direi che la debolezza di questa esperienza sta nella mancanza, sta oltre evidentemente che nel fatto che il giornale deve fare i conti ovviamente con gli orientamenti dell'Austria, ma questo direi che in qualche modo è scontato, sta nel fatto che manca al conciliatore un raccordo più stretto con le forze, diciamo, più vive della società. Certamente con Falonieri, Porro, Lambertelli e così via sono gli esponenti di una intellettualità e di una nobiltà attiva, ma sono anche appunto incapaci di stabilire un rapporto con le classi medie, con appunto il mondo del commercio, il mondo dell'industria, e la cosa si coglie chiaramente nella lista degli abbonati, dove evidentemente se volessimo fare una diciamo valutazione percentuale diciamo delle classi sociali che si abbonano al giornale, troveremmo evidentemente un bassissimo livello di presenza di questi ceti, appunto, che rappresentano soprattutto in Lombardia uno dei perni, diciamo, della società lombarda. E in questo senso basta pensare, diciamo, ma lo cito soltanto, basta pensare alla diversa esperienza che farà alcuni anni dopo, sempre a Milano, un giornale come gli Annali Universali di Statistica. Es ist aber diesem Conciliatore nicht gelungen, Kontakt zu den aktivsten, lebendigsten Schichten der italienischen Gesellschaft zu finden. Er ist also eine Zeitschrift der Intellektuellen geblieben und hat nicht das gerade in der Lombardei für die weitere Entwicklung so wichtige Handels- und Wirtschaftsbürgertum erfassen können. Con gli anni venti si apre una nuova fase della lotta politica in Italia, è una nuova fase di sviluppo del movimento moderato. È una fase che trova il suo momento più alto nella nascita dell'antologia, e nella, diciamo, ruolo che svolge il gruppo degli intellettuali toscani. Anche qui occorre sottolineare la, come dire, la forza dei rapporti, gli stretti rapporti che questo gruppo di intellettuali ha con Sismondi, che in questo caso non sono rapporti soltanto intellettuali, ma sono rapporti diretti. Sismondi ha appunto legami profondi con Viesse, Sismondi vive in Toscana e i toscani, diciamo, considerano Sismondi una specie di lume tutelare. E per quanto riguarda l'antologia è opportuno sottolineare pure appunto i rapporti che, e i legami che legano l'esperienza dell'antologia con l'esperienza del conciliatore. Sappiamo che Capponi ha avuto rapporti assai stretti col conciliatore e probabilmente aveva suggerito a Confalonieri una iniziativa quale quella che poi si era realizzata nel conciliatore, che egli riprende appunto in Toscana. Ridolfi e Capponi saranno i fondamentali finanziatori di VS nella pubblicazione del giornale. La caratterizzazione del movimento moderato in Toscana direi che è sottolineata dall'attenzione che anche qui si hanno nei confronti dei problemi della Chiesa e della sua storia, con una propensione che evidentemente dipende dall'influenza sismondiana al problema di una sua riforma, e nella attenzione al problema delle classi umili e dei contadini in particolare. Io direi che anche in questo caso la lezione della riflessione economica di Sismondi è molto importante. Sismondi, ricordiamoci che proprio negli anni, appunto intorno al 24 mi pare, pubblica un saggio di economia che è una riflessione sulla crisi economica che l'Europa sta attraversando in quel momento, ed una critica molto spietata, molto netta, diciamo, al sistema del capitalismo. Una critica che in parte i toscani leggono come una esaltazione del passato, che in realtà non c'è. Sismondi dice esplicitamente: io vi indico i mali di questa società, non so indicarvi i rimedi, vi dico soltanto che nel passato questa crisi, queste crisi del pauperismo che si delineano nelle moderne società industriali, di cui è appunto prova l'esperienza appunto di Londra, l'esperienza di queste grandi città industriali, nel passato non si verificava. Ja, vielleicht kann ich hier noch etwas einfügen. Also die neue Phase der 20er Jahre wird auch dadurch, oder vor allen Dingen dadurch, eröffnet und charakterisiert, dass eine weitere solche Zeitschrift, die Antologia, in Florenz zu erscheinen beginnt, dass die Toskanischen, das Intellektuelle der Toskana, stark beeinflusst von Sismondi sich zusammentun, wie es schön, Capponi, Ridolfi, Namen, die Ihnen wahrscheinlich ja alle bekannt sind, und dass die Diskussionen und Reflexionen, die in diesen toskanischen Kreisen angestellt werden, weitergehen. Sie gehen auch aus von der Frage der Kirche und ihrer Rolle in Italien. Sie fordern eine Reform der Kirche. Sie gehen aber darüber hinaus auch auf die sozialen Probleme der Zeit ein und widmen sich besonders den Unterschichten und da wiederum besonders den Bauern. Offenbar teilweise beeinflusst von Sismondi, der in den 20er Jahren auch über die damalige Wirtschaftskrise und über die Krise des kapitalistischen Systems geschrieben hat, worin diese Toskaner zu Unrecht eine Verherrlichung der toskanischen, mehr agrarischen Vergangenheit sehen. Direi che comunque questa attenzione per i problemi sociali del gruppo dei Toscani, diciamo, si riflette piuttosto nell'attività esterna all'antologia, cioè nella promozione pratica di esperimenti, iniziative che vanno appunto alla promozione di scuole nelle campagne, alla promozione appunto di esperienze modello di coltivazione delle terre e così via. L'antologia invece si presenta ancora una volta come un tentativo di connessione degli intellettuali italiani. Non è un caso che Jussieu, un uomo diciamo che ha una grande importanza nella storia del nostro Ottocento, si circondi di due collaboratori come Tommaseo, che è un cattolico, e di invece un lombardo, il cireneo della nuova antologia, come verrà definito, del quale adesso mi sfugge il nome, se qualcuno me lo ricorda mi fa una cortesia, che sono su posizioni sostanzialmente abbastanza divergenti. Appunto Tommaseo è un cattolico, questo è invece un pensatore che proviene appunto da una tradizione diversa, che è la tradizione lombarda, più legata, vero, con l'illuminismo. Volevo aggiungere che appunto questo determinerà poi anche la chiusura dell'antologia nel 1932, con un attacco formidabile che viene da Baraldi, quello reazionario di cui abbiamo parlato ieri, che spinge, diciamo, le autorità del Granducato di Toscana a chiudere l'antologia. Also der, chi è questo dieser neue Kreis dieser aktiven Intellektuellen in der Toscana artikuliert sich in doppelter Weise. Auf der einen Seite diese neue Zeitschrift, die Anthologia, welche erneut und mit größerem Erfolg versucht, verschiedene geistige Strömungen Italiens zusammenzubringen, ein Organ des italienischen Denkens zu werden. Auf der anderen Seite ist es dieser intellektuellen Kreis, der aus seiner neuen Einsicht in soziale Probleme praktische Hilfsmaßnahmen, praktische Maßnahmen zur Modernisierung des Lebens auf dem Lande ergreift, der Schulen organisiert, der Verbesserungen in der Landwirtschaft einleitet und organisiert. Also neben der theoretischen die praktische Verbesserung und Modernisierung. Und die geistige Vielgestaltigkeit der Anthologia, in der eben auch dann aus der Aufklärung herkommende Leute zu Wort kamen, hat dann dazu geführt, dass nach einem heftigen konservativen Angriff 1831 die großherzogliche Regierung die Zeitschrift verboten hat. A Napoli l'espressione, diciamo, più significativa di questo movimento moderato è nella riflessione di Luigi Blanc, una figura che fu cara a Benedetto Croce, che ne ripubblicò poi gli scritti storici. Diciamo che la riflessione di Blanc si muove su due versanti. Da una parte l'esame della debolezza della struttura sociale della società meridionale. Dall'altra la necessità di una riforma dello Stato e delle sue istituzioni, che hanno come fine, delineano come, diciamo, prospettiva quella dell'istituzione di un governo consultivo come primo passo, è una frase appunto che riporto letteralmente, come primo passo verso il rappresentativo. È una, diciamo, problematica che Blanc propone nel 20, che riprenderà 10 anni dopo, dove appunto il problema del rapporto, della creazione, diciamo, di un sistema consultivo come primo passo verso il rappresentativo, dove questa prospettiva di sviluppo di un sistema rappresentativo si connette strettamente alla necessità di costituire, di diciamo creare delle salde relazioni tra potere e paese come condizione di uno sviluppo della società nel suo complesso. se diciamo consideriamo quello che è avvenuto finora, non possiamo non cogliere alcune preoccupazioni che si delineano ormai nettamente nella riflessione appunto dei moderati. Il problema principale che sembra delinearsi è quello della formazione di una pubblica opinione. Qui basti pensare alla attenzione, per esempio, che la cultura e gli intellettuali lombardi avevano dato ai temi dello sviluppo della economia lombarda. Era evidentemente la strada per mantenere viva una resistenza della società lombarda verso la politica austriaca. Questa consapevolezza piemontese di essere pochi, a cui prima abbiamo fatto cenno, questo problema di Blanc di trovare un rapporto tra potere e paese, problema quindi che si pone chiaramente, d'altra parte era stato chiaramente già posto nel manifesto del conciliatore, era quello appunto di trascinare, di spingere una pubblica opinione sulla propria strada e, diciamo, di creare attraverso questa pressione dell'opinione pubblica le condizioni di un processo vero di trasformazione. E proprio negli anni 30 assisteremo, come diciamo risposta a questa esigenza, a una fioritura giornalistica che coinvolge il Regno di Napoli e la Lombardia in particolare, mentre per quanto riguarda il Piemonte, diciamo, dovremo andare qualche anno più in là, verso la metà degli anni 30, il 35-36, e poi successivamente, vero, quando si svilupperà anche in Piemonte una dibattito giornalistico piuttosto vivace. Nella Es war dann neben den lombardischen und den toskanischen intellektuellen Zirkel ein kleiner Kreis in Neapel erwähnt worden, Luigi Blanc, dessen Schriften von Benedetto Croce herausgegeben worden sind und dessen ebenfalls historisch ansetzende Reflexion zwei Dinge hervorhebt: die Schwäche der sozialen Struktur des Südens und die Notwendigkeit einer Reform des Staates und seiner Institutionen, zumindest in dem Sinne, dass man zunächst eine beratende Mitregierung berufen solle als ersten Schritt, um zu einem Repräsentativsystem zu kommen, um eine festere und haltbarere Beziehung zwischen Monarchie und Land herzustellen. Und aus diesen ersten Dingen, wobei ich noch hätte betonen müssen, das habe ich bei der Übersetzung vergessen, dass in der Diskussion um Sismondi betont worden war, dass es nur wenige seien, die an diesen Diskussionen Anteil nahmen. Aus diesen ersten Beobachtungen ergeben sich einige Hauptprobleme, und zwar vor allen Dingen das Problem, dass diese sich formierenden Moderati es für notwendig halten, eine öffentliche Meinung erst zu schaffen. Wobei in der Lombardei auch hinzukommt, dass man den weiteren wirtschaftlichen Fortschritt als Voraussetzung dafür ansieht, dass die Region ihre Selbstständigkeit, ihre Eigenständigkeit behalten kann. Dass man davon ausgeht, dass es nur wenige sind und dass deswegen das Reformbemühen verbreitet werden muss und dass man durch die Schaffung einer öffentlichen Meinung die Entwicklung auf eine allmähliche Transformation, auf die Einleitung eines politischen Veränderungs- und Modernisierungsprozesses hinführen soll. Und das erste Ergebnis dieser Bemühungen ist dann, dass in den 30er Jahren sowohl im Napoletanischen wie in der Lombardei eine breite Pressebewegung zustande kommt, eine große Reihe von politischen Zeitungen, zu denen dann seit der Mitte der 30er Jahre auch entsprechende Initiativen in Piemont kommen. Il maturare di questo problema della opinione pubblica e della sua formazione delinea appunto i termini nuovi con i quali si propone questa svolta di cui io parlavo prima, che si matura intorno agli anni 30 e alla quale concorrono anche qui motivi culturali e motivi politici. Tra i motivi politici dobbiamo ricordare innanzitutto, per dare poi a Cesare quel che è di Cesare, anche l'opera svolta dai sovrani, in particolare dal sovrano di Napoli, Ferdinando II, e da Carlo Alberto. Per necessità devo riassumere perché stiamo andando molto in là con i tempi. Mentre però Ferdinando II appare più incerto nella sua politica riformatrice, ma comunque va sottolineato che nel 1934 egli fa caute aperture, ma esplicite, per una lega doganale italiana che allarma enormemente l'Austria, per Carlo Alberto dobbiamo parlare invece di una maggiore continuità della linea riformatrice. Carlo Alberto, questo sovrano tanto contestato e tanto contraddittorio, che dovrebbe un po' uscire dalla retorica dell'Italo Amleto per, diciamo, poi vedere meglio quello che ha significato la sua posizione, indubbiamente ha un atteggiamento molto duro nella repressione di qualsiasi tentativo di, diciamo, insubordinazione e qualsiasi tentativo di cospirativo. Dura repressione, anzi non troppo dura repressione di un moto di ufficiali che si delinea nel 30, durissima repressione di un moto di sottufficiali nel 33, nel quale è presente una componente mazziniana. Ancora sapete la risposta che egli dà a Mazzini, alla lettera di Mazzini, e le risposte che dà ai tentativi mazziniani, ma questi diciamo che sono anche fatti scontati in qualche misura. Ma quello che pare che, diciamo, significativo nella posizione di Carlo Alberto è questa, come dire, questa netta, seppur cautissima, scelta di favorire un processo di lenta trasformazione dello Stato, riforma dell'esercito, riforma della burocrazia. E in questo egli si giova dell'opera discreta e silenziosa di alcuni consiglieri che costituiscono poi appunto lo stato maggiore del moderatismo piemontese. Se si esclude Balbo, che è un po' defilato rispetto a questa posizione, ne troviamo molti. Giovanetti, Giacomo Giovanetti, al quale Cavour nel 40, quando l'azione riformatrice di Carlo Alberto sarà più esplicita, riconoscerà il merito di essere stato l'ispiratore del sovrano nell'opera delle riforme, Cibrario e tanti altri. Inoltre va sottolineato che Carlo Alberto svolge una politica verso gli intellettuali, non solo piemontesi, ma italiani nel suo complesso, che in qualche modo tende a richiamare l'attenzione dell'intellettualità italiana intorno al polo torinese. Questa azione si svolge attraverso la promozione di iniziative culturali come l'Accademia delle Scienze e la Deputazione di Storia Patria, che procederà alla pubblicazione di Storia Patria Monumenta, e che è importante perché attraverso questa opera, ripeto, non soltanto si delinea più nettamente una orientamento dell'intellettualità italiana verso il Piemonte, ma si viene anche formando un gruppo di funzionari che provengono da una nuova classe borghese e di piccola nobiltà, i quali vengono progressivamente sostituendo l'aristocrazia di corte e che saranno poi i pilastri dell'alta burocrazia sabauda e della burocrazia dello Stato italiano. Nella commissione editrice dei Monumenta ci troviamo i Balbo, gli Sclopis, il Baudi di Lesme, Cibrario e così via, ma questo è una questione appunto che per ora lasciamo. Difendente Sacchi. No, difendente Sacchi doveva andare, però poi non va, perché, e questa cosa di Sacchi, per esempio, è, che Corsini ricordava, è interessante, perché si delinea quel processo che, di cui parlava, mi pare, Busman, se non vado errato, della, diciamo, possibilità che gli intellettuali cominciano anche a vedere di trovare collocazione, no? A Torino, in sostanza. Inoltre nel 30 bisogna anche sottolineare che cambia la politica austriaca in Italia. I moti del 30-31, la crisi negli stati della Chiesa e quello che è avvenuto in Francia, modificano abbastanza nettamente la politica austriaca, e la modificano su un terreno al quale alcuni settori dell'intellettualità italiana erano particolarmente sensibili, cioè sul tema dei rapporti tra Stato e Chiesa. La politica austriaca, sebbene cosciente evidentemente della difficoltà a sostenere un regime, come dire, corroso come quello pontificio, e spinge per una sua riforma, tuttavia sente anche che è necessario ricompattare trono e altare per resistere alle pressioni, diciamo, che si delineano su scala europea e che coinvolgono anche l'Italia. Però sostanzialmente va tenuto conto che le grandi aree italiane nel 30 sono abbastanza ferme rispetto al movimento europeo, e direi che in qualche modo troviamo per esempio la grande delusione dei liberali francesi per questa sostanziale, come dire, sostanziale stabilità del sistema italiano. Questa delusione appunto che i Lombardi non sono scesi in campo nel 30 e delineano appunto all'opinione pubblica, agli intellettuali italiani, questo dilemma tra Parigi o Vienna. Parigi, cioè, che rappresenta la prospettiva liberale, Vienna che rappresenta la prospettiva conservatrice, senza rendersi conto che in realtà in Italia va maturando un orientamento che non si riconosce affatto in questa alternativa, che cerca delle strade, diciamo, diverse, che sono poi le strade appunto che matureranno successivamente, appunto negli anni 40. E qui va tenuto conto appunto questo giudizio che Balbo darà proprio sul moderatismo come scuola nazionale che si differenzia appunto dalle scuole straniere, diciamo dalle scuole straniere che sono quelle per lui della destra e della sinistra, della, diciamo del conservatorismo e del democraticismo. Sì. Ja, dieses allmähliche Ausbildung einer öffentlichen Meinung hat in den 30er Jahren zu einer veränderten Situation, einer stärkeren Politisierung der Gesellschaft geführt und zu wesentlichen Fortschritten dieser gemäßigten Bewegung. Und diese Fortschritte sind auch hervorgerufen worden durch politische Entwicklungen, und zwar zunächst auch durch politische Entwicklungen, die von den Monarchen ausgegangen sind. Es hat damals eine gewisse Reformpolitik sogar in Neapel, Sizilien unter Ferdinand II. Gegeben. Und es hat vor allen Dingen trotz aller Widersprüchlichkeit im Wesen Karl Albert, trotz der harten Repression, von der gestern die Rede ist, unter Karl Albert in Piemont, Savoyen, eine klare Entscheidung für einen langsamen, umsichtigen Transformationsprozess gegeben. Karl Albert hat alles, was nach Aufstand aussah, auf härteste unterdrückt. Er hat aber gleichzeitig eine langsame Modernisierung, politische und vor allen Dingen wirtschaftliche, soziale Modernisierung begonnen und hat sich dabei Berater geholt, die ein Jahrzehnt später zu den großen Säulen einer moderat-liberalen Politik gehörten, darunter Giacometti, von dem Cavour im Jahrzehnt darauf gesagt Giovanetti. Hat, Giovanetti, Entschuldigung, wie viel er ihm verdanke. Und Karl Albert hat eben auch versucht, die Intellektuellen über dieses Reformwerk an sich zu ziehen. Akademie der Wissenschaften, Deputation für vaterländische Geschichte, die überhaupt die Geschichtsforschung eine ungeheure Rolle gespielt hat. Und es hat sich in diesen Kreisen dort um Karl Albert eine neue, nicht mehr in erster Linie adelige, sondern auch bürgerliche Berater und Beamtenschicht herausgebildet, aus der dann die Führungsschicht der moderaten und liberalen Partei und zunächst auch dann des einigen Italiens hervorgegangen ist. Auch hatte nach 30, 31, nach der Julirevolution die österreichische Politik sich verändert. Zwar versuchte einerseits Metternich den Kirchenstaat zu reformen, zu bewegen, aber vor allen Dingen versuchte Wien jetzt das Bündnis Thron und Altar zu verfestigen, um die gemeinsame Front gegen die Revolution aufzubauen. Und gerade dieses Bündnis hat diesen Moderati nicht gefallen. Es hatte sich zwar einerseits 1830, 31 herausgestellt, dass das italienische Staatensystem recht stabil war, also französische Hoffnungen auf einen großen Aufstand in der Lombardei sich nicht erfüllten, aber andererseits stellt sich jetzt heraus, Wien ist der konservative Pol, Paris ist der liberale Pol des damaligen Europa. Wohin soll man sich orientieren? Der Moderatismo entscheidet sich, wie Balbo gesagt hat, für eine Scuola Nazionale, für eine eigene, gemäßigt nationale Entwicklung zwischen rechts und links, die also weder mit dem Konservatismus Wiens noch mit dem Liberalismus von Paris sich identifizieren möchte. Ma gli anni 30 sono anche gli anni di una grande svolta culturale in Italia, che è stata identificata, diciamo anche qui nella letteratura, come la seconda ondata romantica e che, per semplificare, perché appunto il tempo stringe, ha, diciamo, grosse conseguenze. E le grosse conseguenze sono sostanzialmente date dalla crisi definitiva della matrici laiche e illuministiche di una certa cultura e di una certa tradizione italiana, che fino allora avevano resistito, basti pensare appunto al successo librario che Gioia e Romagnosi godevano in Italia, e travolti appunto da questa seconda ondata romantica. Le componenti di questa trasformazione culturale sono individuabili in un massiccio ingresso della cultura tedesca in Italia. Savigny viene conosciuto dagli italiani sicuramente dai lombardi, dai piemontesi. Capei sull'antologia fa una recensione dell'opera di Savigny, gli studi storici tedeschi, gli annali universali di statistica cominciano a pubblicare recensioni degli storici tedeschi, lunghi elenchi bibliografici della storiografia tedesca, e nel 45 avremo addirittura un saggio di Roimond sulla studi storici tedeschi che hanno affrontato problemi di storia italiana, e l'ingresso dell'hegelismo, che però qui viene sostanzialmente mediato dall'esperienza francese e in particolare dal cusinismo, dall'eclettismo cusiniano, è un elemento che solo recentemente comincia ad apparire come un elemento importante di questa svolta culturale, che è data dall'influenza del sansimonismo. Per quanto riguarda il sansimonismo, noi abbiamo uno studio sulle influenze dei sansimoniani in Toscana, dove, forse come dice Passerenne in una recensione all'opera appunto in questione, forse si sono esagerati i caratteri di questa influenza, ma non c'è dubbio che il sensimonismo opera su diversi piani, che non sono quelli di un'accettazione dell'ideologia sensimoniana nel suo complesso. D'altra parte il sensimonismo con l'inizio degli anni 30 è in crisi, ma opera intanto sul piano di una penetrazione di questa idea progressiva, sul piano della riconferma della funzione della Chiesa e l'identificazione appunto del Medioevo come un'età organica, sul piano di una maggiore apertura al problema delle classi povere, che diciamo sembra dare al movimento moderato uno strumento di intervento per ricucire quella frattura che gli intellettuali italiani hanno vissuto tra appunto loro e i movimenti di massa, quella frattura che si è delineata col 99 e che diciamo, ha costituito un grande problema appunto della cultura italiana. E qui vorrei appunto dire che questa influenza sansimoniana noi la cogliamo non soltanto in Lombardia, c'è un grande dibattito giornalistico sul sansimonismo in Lombardia, ma addirittura in un'opera come quella di Balbo. Le speranze d'Italia dipendono in gran parte, in tutto quello che è, diciamo, la sua elaborazione di questo problema italiano come un problema che si inserisce in una modificazione degli orientamenti, degli equilibri europei che faccia muovere l'Austria verso Oriente, trova appunto le sue prime radici proprio nel pensiero di alcuni esponenti del movimento sansimoniano, come per esempio Michel Chevalier, che nel 1931 pubblica sul Globe un articolo intitolato L'esistenza della Méditerranée, dove appunto il problema di questo spostamento della Austria verso Oriente è già nettamente delineato. Naturalmente quello che interessa del sansimonismo agli italiani, ripeto, non sono tanto gli aspetti ideologici, gli aspetti dottrinari, quanto diciamo gli aspetti pratici e soprattutto questo sansimonismo che poi si impegnerà in questa opera di trasformazione, di costruzione delle strade, dei canali, delle vie di comunicazione, eccetera, eccetera, è soprattutto questo aspetto, diciamo, che interessa alla cultura italiana. Ja, die 30er Jahre, die also für die Ausbildung der Bewegung entscheidend oder sehr wichtig geworden sind, sind dann im kulturellen Bereich gekennzeichnet von der zweiten romantischen Welle und der Schlusskrise des aufgeklärt rationalistischen Denkens. Wir haben in jenen Jahren das starke Eindringen der deutschen Kultur, der deutschen historischen Kultur, Savigny, wie überhaupt die deutsche Geschichtswissenschaft. Wir haben das Eindringen Hegelscher Gedanken, meist über französische Vermittlung. Und wir haben den Saint-Simonismus, dessen Bedeutung für die damaligen geistigen Veränderungen in Italien erst kürzlich in neueren Forschungen erkannt worden ist, wobei vom Sanssimonismus vorwiegend die praktischen Erfahrungen übernommen werden. Es kommt also unter dem Einfluss dieser verschiedenen auswärtigen Bewegungen zu einer erneuten lebhaften Diskussion, die vom Mittelalter, also von der Geschichte ausgehend, bis zur Rolle der unteren Klassen in Italien geht und in der es darum geht, dass man die inneren Aufspaltungen der italienischen Gesellschaft wieder zusammenfügen will. Und er sieht hier eine Linie, die bis zu Balbo, dem berühmten Werk Le Speranze d'Italia, geht, auch insofern, als in jenen Jahren und in den vielen Zeitungen, die damals entstehen, beispielsweise auch außenpolitische Diskussionen geführt werden, in dem Sinne, dass man sich vorstellt, man solle Österreichs Energien auf den Balkan hin ablenken und darüber eben in Italien mehr Handlungsfreiheit gewinnen. Vi è un altro elemento dell'influenza germanica che gioca un suo ruolo nell'orientamento dei moderati ed è l'esperienza della Confederazione tedesca e l'esperienza appunto della Lega Doganale tedesca. D'altra parte, i fallimenti consecutivi delle iniziative mazziniane rafforzano l'idea che l'unica strada percorribile è quella dell'accordo tra i principi e tra i principi e i popoli. Nasce quindi l'ipotesi federalista. I congressi degli scienziati saranno, diciamo così, un primo passo verso questa idea di un incontro degli italiani, ma la loro importanza sta soprattutto nell'opera che essi svolgono per la definizione del programma di lungo periodo del Partito Moderato. E con i congressi dei licenziati arriviamo alla svolta degli anni 40, cioè alla maturazione del pensiero moderato. Gioberti, del primato morale e civile degli italiani, questa proposta appunto di una federazione dei principi, questa che Gioberti chiama l'utopia, la sua utopia in una lettera definisce apertamente così questo suo programma e diciamo definisce anche quello che lui intende per utopia. L'utopia è un modello perfetto, diciamo, e forse non realizzabile. Naturalmente l'importanza che l'opera giobertiana avrà sia nel processo di avvicinamento dell'opinione cattolica al programma moderato è notevolissima, sia per diciamo, l'apertura del dibattito, e Balbo, come voi sapete, nelle Speranze d'Italia si rifà direttamente all'opera di Gioberti, sottolineando appunto che l'unico elemento di disaccordo, del suo disaccordo con Gioberti, riguarda il problema della indipendenza. Ed ecco che matura quindi ormai apertamente questo problema. L'Italia, il problema nazionale italiano può essere risolto soltanto con l'allontanamento dell'Austria. Ma questo allontanamento dell'Austria dall'Italia, anziché fare affidamento sull'iniziativa rivoluzionaria che si rivela impossibile a risolvere il problema, deve affidarsi invece ad un processo, diciamo, nel quale vengano coinvolti tutti gli stati italiani, in un processo che, diciamo, è segnato nel suo sviluppo dallo stesso ruolo che la Chiesa deve giocare di civilizzazione, e che quindi deve spostare le potenze cattoliche, Russia e Austria, le potenze cristiane in questo caso, la Russia ortodossa e l'Austria cattolica, verso Oriente, e che porteranno appunto all'abbandono dell'Italia, dell'Italia settentrionale, e alla formazione dell'Italia, della Federazione Italiana. E qui diciamo è inutile sottolineare poi gli ulteriori elementi della polemica dell'elaborazione balbiana. Un libro che vale ancora la pena di sottolineare è il libro di Petitti e la recensione che a questo libro fa poi Cavour, nel quale il problema appunto delle strade ferrate viene posto al centro, diciamo, e Cavour individua immediatamente la funzione politica del problema delle strade ferrate. Nel dibattito appunto sulla necessità della costruzione delle strade ferrate piemontesi lungo un arco, diciamo, che si sviluppi in senso verticale da Genova verso i paesi tedeschi, Cavour preferisce decisamente un asse, diciamo, che da Genova passi diciamo, orizzontalmente e miri alla congiunzione verso Milano, con evidentemente l'idea della necessità di raccordare. Also es kommt in den 30er Jahren noch ein deutsches Element hinzu, nämlich die doppelte Beobachtung sowohl der politischen Grundstruktur Deutschlands im Deutschen Bund und des Zollvereins im wirtschaftlichen Bereich. Und nachdem also nun man auf der einen Seite sieht, wie in Deutschland der Zollverein arbeitet, und nachdem man auf der anderen Seite feststellen musste, dass die Aufstände Mazzinis gescheitert sind, taucht in diesen Kreisen der Moderati die föderalistische Idee auf. Das heißt also, aus der allmählichen, so ein allmählicher Übergang zur politischen Diskussion in den 30er Jahren, die Vereinbarung unter den Fürsten Italiens soll zu einer Fortentwicklung Italiens führen. In dieser Richtung sind tätig die ja schon erwähnten Kongresse der Wissenschaftler, die sich bis in die 40er Jahre hineinziehen. Und zu Beginn der 40er Jahren kommt dann aus diesen Diskussionen heraus Gioberti mit seiner Illusion vom Primato morale e civile degli Italiani. Das kennen Sie alle, was darin steht, die Grundgedanken. dieser föderalistischen Zusammenfassung Italiens mit dem Papst, Ehrenpräsidium. Bei Balbo, von Balbo wird in diese Diskussion die Notwendigkeit der Entfernung Österreichs noch hineingegeben. Und es kommt über der doppelten Diskussion oder der dreifachen Problematik Föderalismus, Rolle der Kirche, Österreich, kommt man eben auch zu der Vorstellung, dass die Kirche als eine übernationale Ordnungsmacht mit dazu beitragen könne, dass die christlichen Mächte Russland und Österreich sich anderswo engagieren, an Österreich, also das Problem Österreich aus Italien zu entfernen. Und zu diesen politischen Diskussionen über den Föderalismus kommt etwa in dem Buch von Petitti, Cavours Rezension dazu, das Problem des Eisenbahnbaus, wirtschaftliche Modernisierung im Dienste der politischen Modernisierung, wobei es gerade Cavour ist, der diese Anregung sofort im Sinne einer stärkeren Zusammenfassung Mittelitaliens aufgreift. C'è la paura che arriviamo al parlamento verso la cena. Le altre cose si potranno vedere durante gli atti. Io, a me dispiace proprio, ma devo pregarla di chiudere perché sono le 11 e dobbiamo anche fare un momento di intervallo e poi prendere la discussione. E alle 12 molti partono, forse anche qualche minuto prima. Grazie. Allora, se cerchiamo di tirare le fila di questo tentativo di caratterizzare il pensiero moderato, quali sono gli atteggiamenti che possiamo sottolineare? Primo, un atteggiamento riformatore che però non nasce da un astratto progetto di trasformazione della società, ma dalle concrete necessità politiche e sociali. Lo esprimerà bene Balbo con la definizione dei moderati come quelli che non vogliono tutto conservare o tutto cambiare, ma riformare solo ciò che è necessario. Se volete è una formula un po' astratta e vuota, ma esprime bene questa idea, vero, della concreta atteggiamento riformatore. Secondo, atteggiamento neoguelfo e di esaltazione della tradizione italiana come tradizione cattolica. Terzo, problema nazionale come problema dell'indipendenza. Quarto, problema della libertà. Sul problema della libertà però occorre un momento solo di riflessione. Balbo dirà appunto nelle Speranze: purtroppo sono ancora molti sparsi, sono molto sparsi ancora desideri di libertà, cioè di istituzioni liberali. Purtroppo dico perché io vorrei non rimanesse nessun desiderio se non quello dell'indipendenza. E Durando, nell'opera della nazionalità italiana, proporrà sì il problema delle istituzioni rappresentative, ma come una necessità per, diciamo, fondere questa diversità di tradizioni, questa diversità di formazioni, queste subnazionalità disseminate, riluttanti e anche nemiche, che bisogna appunto in qualche modo compattare. Comunque il problema della discussione, della riflessione sulle trasformazioni dello Stato e del sistema rappresentativo rimane estremamente carente. Vive l'illusione della consulta che poi appunto il 48 travolgerà. E ho finito, il 48 sarà anche il travolgimento complessivo dell'ipotesi moderata. Questa idea di una possibilità di collaborazione tra i principi e di una collaborazione tra i principi e popolo, il 48 la farà, la metterà decisamente in crisi. Il Papa non è disponibile a questa collaborazione tra i principi, gli stessi popoli appunto non accettano passivamente, vero, una direzione moderata, una direzione che venga dai principi. Ho finito e dico un'ultima cosa, che questo schema ci consente anche una più facile soluzione di un piccolo problema, cioè la presenza nella cultura italiana del gruppo cosiddetto romagnosiano. Essi sono riformisti, essi sono potenzialmente federalisti. Dove sta dunque la loro differenza con il moderatismo? Io sempre sommariamente la indico. Secondo me la differenza sta intanto che il riformismo di questo gruppo è ancora, diciamo, è un progetto di sviluppo della società, è un progetto complessivo di sviluppo della società, si esprime in quella che sarà la filosofia civile di Romagnosi, si esprime in quello che verrà definito il modello lombardo che Cattaneo elaborerà come prospettiva di sviluppo dell'Italia. Sono laici, integralmente laici. Romagnosi scriverà un'opera dell'incivilimento italiano negli anni 30, nella quale, pur riconoscendo un ruolo al Papa, gli riconoscerà però sostanzialmente un ruolo di conservazione del diritto romano e quindi della tradizione romana. Infine, una massima attenzione al problema della libertà. Romagnosi pensa a un sistema rappresentativo degli interessi e delle professioni, con un governo che faccia sentire il meno possibile la sua presenza e, diciamo, questo gruppo è sostanzialmente fortemente anticentralista. Questo significa che in sostanza questo gruppo configura una corrente autonoma rispetto al moderatismo e che non va confuso con il moderatismo. Ja, zusammenfassend hat Herr Lassalle ja vier Hauptabsichten, Grundsätze der Moderati herausgestellt. Erstens das reformerische Anliegen. Und zwar ein Reformismus, der sich nicht an abstrakten Prinzipien, sondern an den praktischen Notwendigkeiten orientiert, der, wie Balbo sagt, nur das ändern will, was notwendig geändert werden muss. Zweitens das neoguelfische Element, das heißt also die hohe Schätzung der Kirche und der Bedeutung, welche die katholische Kirche für die nationale Geschichte und Entwicklung Italiens gehabt hat und die Konsequenzen, die eventuell daraus in der Gegenwart zu ziehen sind. Drittens das Problem der Unabhängigkeit, das heißt im Wesentlichen das Problem der Verdrängung Österreichs aus der italienischen Politik. Viertens das Problem der Freiheit, jedoch vorwiegend in dem Sinne, dass freiere Institutionen die verschiedenen politischen Kulturen Italiens vereinigen und eine italienische Einigung im modernen Sinne vorbereiten soll. Das heißt, ein nur sehr vorsichtiger Transformationsprozess, der nicht unbedingt bis zu völlig liberalen, repräsentativen Institutionen gehen will und der dann eben 1848 in vielfacher Hinsicht scheitert. Erstens geht die Entwicklung über die bloßen Beratungsgremien hinweg, mit denen die Moderati sich zufrieden geben wollten. Zweitens kommt es weder zu der Vereinbarung der Fürsten untereinander, weil dies am Papst scheitert, noch zu der Vereinbarung der Fürsten mit dem Volke, weil die einzelnen politisch aktiven Gruppen in den verschiedenen Zentren Italiens sich mit der mehr passiven Rolle, die ihnen zugedacht ist, nicht zufrieden geben, sondern eine echtere Partizipation wollen die Völker akzeptieren, dieses bloße konsultativ föderalistische, mit Fürsten begründete System nicht. Insofern ist also 48 der Schlusspunkt für diese langsame und nur begrenzt reformistische Bewegung. Und zum Schluss ist dann noch eine Unterscheidung gemacht worden zwischen dem Moderatismus insgesamt und der Bewegung in der Lombardei, eine kleinere Gruppierung um Romagnosi, eine mehr laizistische und mehr liberale Bewegung, die also in doppelter Hinsicht über den generellen Moderatismus hinausgeht, weil sie sowohl wirklichen liberalen Staat wie laizistischen Staat begründen wollte. Das ist es. Scuso per la lunghezza. No. Ja, ich würde sagen, che dici tu? Possiamo 5 minuti, 10 minuti. Also eine kurze Pause von 10 Minuten, dass wir also um 14 nach 11 wieder beginnen. Das alles habe ich gemacht an der Entschuldigung. Allora riprendiamo la seduta, ci rimane meno di un'ora perché il pranzo è stato fissato alle 12:30. Das Mittagessen wird also heute schon um 12:30 stattfinden. Wir haben dann also noch fast so viel Zeit zum Essen und zum Diskutieren beim Essen wie zum Diskutieren hier. Io comincio con il domandare scusa al relatore se sul finire ho dovuto per necessità pregarlo di concludere, sono convinto che poi avrò altre questioni di dettaglio che ha dovuto omettere e saranno poi presenti nella redazione scritta che verrà pubblicata negli atti. La relazione di La Salvia non poteva forse essere più breve, perché a lui era stato affidato il compito di trattare la corrente moderata, che a mio avviso è quella che anche quantitativamente il peso politico è stato qua e là accennato, ma anche quantitativamente è quella che ha una maggior produzione e una maggior incidenza in tutto questo primo periodo e anche specialmente nel decennio cavuriano nella storia italiana. E volevo, se consente il collega La Salvia, toccare alcuni punti con la preghiera di eventuali correzioni se le mie considerazioni non sono corrispondenti al suo pensiero. Può darsi che c'è sempre la preoccupazione di non intendere esattamente. Una cosa, comincerò dall'ultimo, mi avvenne un poco, mi sollecita a puntualizzare. Quando si parla di travolgimento dell'idea moderata nel 48, io credo che il professor La Salvia abbia voluto riferirsi più particolarmente a quella speranza di una collaborazione tra sovrani e specialmente alla collaborazione tra la corrente liberale e la corrente cattolica. Ha citato proprio la prima posizione di Pio IX, vero, nei primi avvenimenti del 48, che poi si è interrotta. Perché da un altro punto di vista il 48, che in Italia ha anche una rivoluzione estremamente superficiale, estremamente leggera, è vero, abbiamo detto già che non si chiude neanche con un'assemblea costituente, impossibile per la situazione italiana, come è avvenuto invece in Germania ed in Austria. Altrimenti il 48 mi pare che, se si allontana questo problema della collaborazione specialmente tra la corrente liberale e la corrente cattolica, il 48 è tutt'altro che un travolgimento definitivo del moderatismo. A me sembra che sia proprio il punto di partenza in cui il moderatismo diventa, vero, da dottrina e concezioni politiche, diventa una realtà pratica e una realtà di governo, che non trova soltanto la sua ragione d'essere, vero, nel momento rivoluzionario, ma che si inserisce in tutta quella elaborazione del programma moderato che era già stata, vero, fatta prima del 48. E quando Cavour si presenta sulla scena politica, non è che incominci allora a elaborare le sue dottrine riguardanti le strutture dello Stato, costituzionalismo, specialmente gli aspetti economici, vero, e ha già dietro le spalle tutta una maturazione, vero, precedente. Perciò io vedo il 48 casomai proprio come l'inizio, vero, della forza politica, vero, nella realtà dei fatti della idea moderata. Poi volevo dire ancora che sicuramente per il fatto che non si è potuto sentire specialmente le conclusioni, che sarebbero state le più importanti, ma a me è parso qui che questa corrente moderata, ha citato il Balbo, e il Balbo effettivamente la definisce per negazione, no? Per negazione, non è né Parigi né Vienna, non è né conservatorismo, e qui questo riferirsi a Parigi come sede del liberalismo, e in realtà la preoccupazione di molti patrioti, specialmente della corrente moderata, nei confronti di Parigi, e nel 48 l'abbiamo proprio visto anche tradotto nella realtà dei fatti, era perché Parigi, oltre che sede del costituzionalismo liberale, era anche il centro delle tendenze vero più radicali e più democratiche. La prima strozzatura della guerra del 48 è forse avvenuta, va bene, su questa preoccupazione Carlo Albertina, va bene, che si inserisce nel panorama e nella situazione italiana, troppa influenza, non solo direttamente con un aiuto militare, ma anche troppa influenza delle correnti radicali, delle correnti democratiche. Un'ultima osservazione su questo, e più che un'osservazione, neanche le altre erano considerazioni, pensieri ad alta voce, e su questo domanderei però, è vero che il collega La Salvia, è una domanda che io pongo. Io anche nella brevissima introduzione, di questo gli sono grato di aver ripreso il tema, ho parlato, vero, come uno dei casi e dei momenti essenziali di questo periodo pre-rivoluzionario, l'influsso avuto in Italia delle dottrine e della creazione dello Zollverein, legato direttamente in Italia al problema della rete ferroviaria. Questo problema della rete ferroviaria su cui si è intrattenuto il Petiti e lo stesso Cavour. Io posso sbagliare, qui pongo la domanda, ho però l'impressione che il contrasto non fosse, davvero, nei confronti di Cavour, cioè che Cavour fosse favorevole alla connessione della rete ferroviaria piemontese attraverso la Svizzera direttamente con la grande asta tedesca, e che il contrasto fosse invece con il Cataneo. E il Cataneo voleva invece l'estensione della rete ferroviaria via Milano, Verona, Venezia, Trieste per collegare i mercati lombardi e il territorio di produzione lombarda, già allora abbastanza vivace, modestamente corrispondentemente ai tempi. Vero? E il sogno era ben quello, va bene, lo cavuriano, se ho capito io, va bene, tutta la valle, l'alta valle del Reno e giù attraverso la Svizzera, i trafori delle Alpi, e di questo se ne occupano ampiamente, e poi il collegamento Torino-Genova, proprio in contrapposizione all'altro collegamento Milano, Verona, Venezia, vero, Trieste. Ma non so se ho capito bene, ma mi sembrava di aver appreso che Cavour era più favorevole alla linea, al collegamento attraverso la Lombardia con Trieste. E su questo domanderei, avrò qualche... E poi ho finito, non voglio mica che la Salvia mi chiami all'ordine, vero. Ma questo forse lo metterò lì nelle considerazioni finali, vero? Ne esco un poco turbato dal modo in cui è stata presentata la situazione italiana, perché Ara ci ha detto che la corrente conservatrice era in sostanza piuttosto debole. Trankovic ci ha illustrato la eroicità della corrente democratica, la grandezza idealistica, ma ha lui stesso riconosciuto che è stata incapace di raggiungere le soluzioni desiderate e le soluzioni volute, e sappiamo che sul piano del governo non è riuscita a giungere al governo. Adesso, di fronte a questa relazione di La Salvia, insomma, dove vedo anche molto debole questa corrente moderata, io sono veramente un po' turbato, dico, questa storia italiana, del risorgimento, da chi è stata fatta? da chi è stata fatta? E allora chiudo un po' scherzosamente, forse gli italiani lo sanno, ma gli amici vero tedeschi non lo sanno, forse non lo ricordano, ma la rovescierei proprio, la satira del Giusti, eroi eroi che fate voi, ponziamo il poi, e dell'Italia che ne pensate l'abbiamo a balia. Baglia pretesca, liberalesca, nostra o tedesca, vate la pesca, lo so, sta fresca. Ma poi questa Italia è stata fatta. Questa Italia nella realtà dei fatti è stata fatta e ha avuto un governo, che il governo, che governo è, quando nasce e come nasce, è un governo che proviene dal grande filone del liberalismo costituzionale e della corrente moderata. Ecco, domando scusa, ma... Ja, ich möchte nur ganz wenige Punkte für die deutschen Kollegen wiedergeben. Es ist zum Beispiel die Frage gestellt worden, ob 1848 wirklich eine Niederlage des Moderatismo gewesen sei oder ob nicht jene gemäßigte Partei von 1848 an nun tatsächlich ihre Ideen in die praktische Politik hätte übertragen können und das vielleicht 48 eben Anfang einer von den Moderati bestimmten, zum Liberalismus dann hingelenkten politischen Entwicklung gewesen sei. Und zum Schluss das Erstaunen darüber, dass uns sowohl die Demokraten wie die konservativen Kräfte Italiens und heute auch die Moderati als eigentlich sehr schwach hingestellt worden sind und daran anschließend die Frage, wie es denn eigentlich zum Risorgimento und zur nationalen Einigung Italiens gekommen sei, die ja schließlich erfolgt ist. Ja, ich bitte um andere Diskussionsbeiträge. Also machen wir eine Liste, damit wir wissen, wie lange wir also noch ungefähr hier, ach, benissimo, adesso arrivano le leve, allora Heidemann, der Reihe nach, also Heidemann war der Erste, Herr Fenske der Zweite, dann kommen die beiden Damen aus der Schiera Ghisalberti ho dimenticato il suo? Sofia. Poi la dottoressa Moscati, poi Boutrous e basta. Bitte. Alicia hat ja gestern gesagt, dass eigentlich der Begriff Moderati oder Moderatismo eigentlich nichts anderes ist als der italienische Begriff für Liberalismus. Laut? Bitte laut, langsam, deutlich. Sie haben gestern erwähnt, und das hat mir einfach so sehr gut gefallen, dass man das mit einem Begriff einfach mal festmacht, dass der italienische Moderatismus als Begriff, also die Moderati, nichts anderes ist als eigentlich das Wort Liberalismus für diese konfliktive Bewegung. Und Sie haben auch erwähnt, was vielleicht ab und zu auch gerade von unseren deutschen Beiträgen, vor allem vielleicht auch von mir, etwas zu stark hervorgehoben worden ist, eben die deutsche Entwicklung, dass wir den Vergleich ja nicht außer Acht lassen dürfen. Und wenn ich jetzt einfach mal so versuche zu vergleichen, Liberale in Deutschland nach diesem Referat gestern, diesem exzellenten Referat gestern von Herrn Fenske und jetzt den Moderati, da würde ich auch so drei, vier Punkte kommen, ich sage das erstmal ganz ungeschützt, als jemand, der sich eben da gerade erst einarbeitet. Es gibt ja diese vielen Parallelen, beispielsweise, dass Liberale in Deutschland ebenso wie Moderati in Italien versuchen, beispielsweise technische Neuerungen einzuführen. Innovation und Technik. Ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Aber wenn ich mir zum Beispiel in der 48er Revolution das Vorgehen des Frankfurter Parlaments und vor allem der Liberalen anschaue, wo sehr lange und sehr eindringlich und mit einem guten Ergebnis doch die Grundrechtsdebatte eigentlich geführt wird und über dieser Grundrechtsdebatte im Großen und Ganzen eigentlich die wirklich politischen Zielsetzungen und Möglichkeiten vor allem dieser Regierung mehr oder weniger außer Acht gerät mit der Zeit, dann habe ich den Eindruck, als ob diese italienischen Moderati das, was also politische Möglichkeiten, Einflussmöglichkeiten angeht, wesentlich realistischer gewesen sind. Hat der Hermann Baumgarten im Jahr 66 ja auch geschrieben, unter Julian Schmidt. Realistisch. Und 60, Anfang der 60er Jahre. Denn es ist ja immer noch die Frage gerade gewesen, inwieweit ist 1848 sowohl für den deutschen Liberalismus als auch für den italienischen Liberalismus eine Niederlage. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so pauschal sagen kann. Und da scheint mir jetzt auch ein Punkt vielleicht sehr wichtig, wenn ich einfach mal so spekulieren versuche, vielleicht waren diese italienischen Moderati deswegen etwas realitätsbezogener, weil sie einerseits eine fremde Macht im Land hatten, andererseits dieses schwierige Problem mit der katholischen Kirche als Staat und als kulturelle Einheit und drittens eben nicht diese, gerade zu diesem Zeitpunkt eben in Deutschland enorm starke philosophische Tradition. Und suggestiv wirkende Suggestivität, die natürlich dann ganz klar auch zu einer gewissen Idealismus darüber scheint, der eigentlich gar nicht. Italiener und die Romanen insgesamt sind realistischer, finden den Weg seit vielleicht schon vorher, sie finden den Weg des Kompromisses, während die Deutschen alle Probleme lösen wollen und deswegen grundsätzlicher, spekulativer nachdenken. Dies ist also vielleicht nicht nur ein Problem der beiden Strömungen, sondern insgesamt zweier politischer Kulturen. Aber der Vergleich, auf den Sie mit Recht zurückwenden, wir zurückverweisen, ist ja eines unserer Hauptanliegen und so müssen wir diese Dinge hier zur Diskussion stellen. Herr Fenske, bitte. Ja, Herr Heidemann ist also schon in die Richtung gegangen, in die ich auch gehen würde. Ich würde dazu einiges auch sagen, aber auch zu dem, was Sie angefügt haben, hätte ich meine nicht, dass die deutschen Liberalen so an der Wirklichkeit vorbeigesehen haben. Vielleicht liegt das Problem des unterschiedlichen Erfolgs oder des 1848 unterschiedlichen Realitätssinns auch darin, dass doch die Entwicklungsstände in beiden Ländern sehr verschieden waren, Probleme doch sehr anders gelagert waren mit der deutschen Einigung. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht eingehen. Nach dem, was ich heute gehört habe, habe ich doch den Eindruck gewonnen, dass man zögern sollte, wenn man die Moderati mit den deutschen Liberalen gleichsetzt. Die Moderati blieben ja wesentlich vor dem Konstitutionalismus stehen. Und ich würde sagen, das Bekenntnis zum Konstitutionalismus ist eine deutsche Aufgabe, ein wesentlicher Programmpunkt. Wo das nicht da ist, meine ich, sollte man auch nicht von Liberalismus sprechen, sondern vielleicht von Präliberalismus. Aus dem Referat von Herrn Arnagel hervor, dass der italienische Konservativismus nach dem klassischen politischen Spektrum links rechts sehr viel weiter rechts stand als der deutsche. Herr Frankovic hat ja begeistert gesagt, wir haben immer gesagt, die Konservativen sind Reaktionäre. Vielleicht sollte man prüfen, ob nicht die Moderati Italiens nach deutscher Einteilung eher in das Lager des gemäßigten Konservativismus gehören. Liberal-Konservative, Wenn ich die Kategorien von Rotteck, die ja nur für Deutschland eingeführt worden sind und die ich auch nur für die drei linken Gruppen vorteile, bei Konservativismus habe ich meines Erachtens vertan, wenn ich die übertragen würde auf Italien, wäre ich sehr bedenklich, ob man die Moderati, nach dem, was wir gehört haben, zur Partei der behutsamen Reformen rechnen sollte. Sie haben ausgeführt, dass die Moderati behutsame und praktische Reformer waren. Aber zwischen ihren Moderati und den behutsamen Reformen in Deutschland ist immer ein großer Unterschied, doch der, dass man nicht konsequent das konstitutionelle System forderte, offenkundig war das noch nicht realisierbar aufgrund des Entwicklungsstandes dieses Landes. Danke sehr, la dottoressa Sofia. Io volevo fare solamente due piccole osservazioni riguardo al sue precisazioni, queste osservazioni riguardo al primo romanticismo di cui ha parlato la Sardia e in particolare alla decisione che all'interno di questo primo romanticismo ha avuto Sismondi. E in particolare? Riguardo Sismondi. Alla decisione che ha avuto Sismondi. E proprio per sottolineare l'importanza, cioè come questo sia veramente un primo romanticismo, vorrei soffermare un attimo sulle fonti di Sismondi. Ossia come Sismondi, in un certo senso, la visione della storia delle Repubbliche italiane taglia con tutta una storia riformistica, con la storia riformistica italiana, e questo si ricava essenzialmente dalle fonti che utilizza Sismondi. Sismondi parte, sia la fonte più recente che usano Sismondi è Montesquieu, e quindi questo fatto di non conoscere il riformismo italiano ha un certo senso ha una funzione di rottura quando le Repubbliche italiane arrivano in Italia, ed è questa secondo me la grossa novità di Sismondi, che per lui deriva essenzialmente dalla sua formazione e proprio in quanto non è italiano può compiere questa rottura. Poi vorrei soffermarmi su un altro fatto, ossia che la Sardi ha detto che vi è una specie di scissione, no, una specie di, non so come dire, di scissione tra questa visione medievale o questa visione cattolica. E io vorrei soffermarmi sulla visione medievale di Sismondi, ossia il medioevo di Sismondi non è un medioevo romantico, è un medioevo che si rifà direttamente a Hume e Robertson, a tutta la scuola storica scozzese, ossia la libertà che nasce con le Repubbliche italiane è la stessa libertà che poi si realizza con la Rivoluzione francese, anche se le forme istituzionali cambiano. E questo secondo me è molto importante perché non vi è, per esempio, proprio riguardo alla Germania e alla cultura tedesca, non vi è nessun compiacimento per i dati romantici del Volksgeist. È una visione ancora molto positiva e illuministica, ed questo forse può contribuire anche a far comprendere diciamo, questa diffusione che ha avuto Sismondi in Italia. Basta. Grazie. La dottoressa Moscati. Ci sarebbero tantissime cose da dire, perché ci sono state alcune notizie interessantissime che ci ha dato la Sardi. Io volevo soltanto dire alcune cose, fare alcune domande e alcune considerazioni, mi limiterò al massimo. Prima di tutto la critica alla Rivoluzione francese fatta dal moderatismo potrebbe avere anche diciamo, un'altra motivazione, cioè il fatto che la critica fondamentale era la critica a Napoleone e al Napoleone in Italia. Quindi la Rivoluzione francese era vista come motivo generatore di quello che sarà poi la funzione di Napoleone, oltre che in Francia, specialmente in Italia. Quindi questo richiamo, forse, non lo so, questa è più una domanda che una considerazione. E questo è in balbo, io credo che sia così, almeno dalle letture che ho fatto. Poi voglio dire qualche altra cosa appunto su Balbo, era questo, cioè la critica che Balbo fa all'istituto della Repubblica Italiana di Sismondi è molto importante per il suo pensiero, cioè in questo senso che la lettura di Sismondi provoca in Balbo un interesse per lo studio dei comuni italiani, tanto che promuoverà all'Accademia delle Scienze di Torino un pubblico concorso per far studiare l'origine dei comuni italiani, cioè promuovere una pubblicazione su quello, che non verrà espletato questo concorso per mancanza di concorrenti, e sarà lui stesso che in parte realizzerà attraverso 3 o 4 opuscoli e in parte attraverso roba che è tuttora inedita questa funzione e l'importanza dei comuni italiani per la storia successiva, proprio anche come sviluppo della storia d'Italia in senso appunto diacronico. Aveva detto giustamente la Sardi dell'importanza dell'Accademia delle Scienze, della deputazione per lo sviluppo appunto come veicolo culturale. Questo anche proprio in questo tipo di convegno mi sembra molto interessante sottolinearlo, perché l'Accademia delle Scienze, la deputazione in quegli anni, cioè siamo nel 1933, 35 darà la possibilità di viaggi all'estero ai suoi rappresentanti, come appunto aveva ricordato. Quindi da questo si svilupperanno i primi viaggi in Germania e quindi si svilupperanno i primi contatti culturali e anche gli stessi monumenti a Germania storica e i monumenti alle storie patrie che lui ricordava, in un certo senso nascono sotto la spinta dell'impulso, dello sviluppo dei monumenti a Germania storica che dal 26 penso aveva cominciato appunto. C'è una filiazione diretta. Ci sta una filiazione diretta. I monumenti e storie patrie torinesi sono letti, recepiti, recensiti e ammirati moltissimo in Germania. E quindi diciamo che hanno un certo circuito proprio per lo sviluppo della cultura italiana all'estero, in particolare in Germania. Eh sì, poi qui si sviluppa, credo, proprio tutta quella scuola filologica. Storico, giuridica, insomma, ecco. Oh, e poi volevo dire anche un'altra cosa. Da quello che mi ricordo, il giornale dell'indipendenza italiana per i moderati era però legato, almeno per Baldo in particolare, che qui è stato molto ricordato per la sua funzione preminente, era legato all'indipendenza dell'Italia settentrionale, almeno in un primo momento. Quindi l'idea di un'unità della storia d'Italia in quel momento ancora non era sviluppata, insomma, perché Baldo riteneva che fosse troppo presto formare l'Italia come nazione unita, ma formare soltanto l'unità dell'Italia settentrionale. Avrei aggiunto una cosa, questo è anche il punto, l'unità italiana che tu dicevi che nasce con Sigismondi, e poi l'unità anche questa molto ristretta perché comprende solamente i comuni medievali, cioè dove sono completamente nati i comuni medievali che vanno dalla Lombardia alla Toscana, che giù non vanno, insomma. Cioè, sì. Roma è una piccola esperienza relativa, insomma, la sua visione è molto settentrionale, anche per fonti chiuse. Ich möchte wegen der Kürze der Zeit nur eine ganz kurze Frage stellen, vielleicht in der Mitte, also eine terminologische Klärung. Wenn ich richtig verstanden habe, haben Sie am Anfang gesagt, dass die Übergänge zwischen Moderaten und Konservativen sehr fließend waren. Wir haben es ja gestern durch das Referat von Ada gesehen, dass die Konservativen als, sagen wir mal in Anführungszeichen, theoretisch fundierte Bewegung in Italien überhaupt nicht existierten, sozusagen. Dass da also ein Übergang kaum möglich wäre. Also ist es richtig, dass hier der Konservative in dem Sinn gebraucht wird, die verarbeitet, also nur für einige Pragmatiker, die in der Bürokratie vertreten waren, verwendet hat, die also aber kein theoretisch formuliertes Programm hatten. Ansonsten ist es mir also schwer vorstellbar, dass also bei aller, auch bei diesen Moderaten, die vielleicht im Deutschen waren, wie Herr Fenz gesagt hat, ein gemäßigt konservatives Spektrum einzuordnen sein, wie es da Übergänge von diesem Spektrum zu diesen Reaktionären gibt, die uns Herr Arag gestern vorgestellt hat. Davvero erano possibili contatti, assomiglianze tra moderati e conservatori, cioè la reazionale in Italia. Das ist klar, weil das unmittelbar daran an. Ich hatte mir notiert, dass es fließende Übergänge zwischen Moderaten und Demokraten gegeben habe. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich getäuscht habe, sondern ich glaube, es nach beiden Seiten fließende Übergänge. Forse ho sbagliato io traducendo. Lei ha detto all'inizio. Ich glaube, ich habe das auch auf Italien, ich habe das zweimal gehört, den fließenden Übergang zwischen Moderaten und Konservativen. No, se c'è stato un malinteso, vediamo un po' da dove ho incominciato. Adesso non trovo. Allora, lei ha voluto dire che da moderati a democratici o da moderati a conservatori erano tante, come diceva lei all'inizio. Ma lo chiarirei, è difficile stabilire confini netti tra moderatismo e conservazione, ma das ist schwierig ist eine klare Grenze zwischen Moderatismus und Konservatismus zu ziehen. Ma credo che il problema nasca dalla differenza, qui è stata sottolineata dalla differenza tra i conservatori con quegli anni. Vuol rispondere lei? Sì. E se lei risponde lentamente, sì, tutti comprenderanno. Sì. Dunque, non risponderò nell'ordine in cui sono state fatte le domande, cercherò un poco di raggrupparle per argomenti, diciamo così. E questo dibattito tra Heidemann, mi pare che si chiami il collega, e Fenske, che interveniva, diciamo che io condivido in larga parte le osservazioni che su questa questione faceva Fenske, cioè non credo che i liberali tedeschi non siano realistici, come non credo che i moderati italiani siano ultrarealistici. È vero che essi puntano in modo particolare su un processo di trasformazione che è sostanzialmente un processo di trasformazioni, diciamo, tecnologiche, delle strutture economiche, le ferrovie, le strade, il commercio, quindi ma è vero anche che essi cercano una soluzione del problema italiano in termini politici. E allora qui viene il problema del fallimento del moderatismo nel 48. Che cosa intendo quando parlo di fallimento del moderatismo nel 48? Quando parlo del travolgimento dell'idea moderata nel 48, evidentemente non voglio dire che queste influenze spariscano, sono finite. Intendo dire che si dimostrano irrealistiche le fondamentali ipotesi politiche dei moderati. La federazione non si può fare. Coinvolgere il Papa, la Chiesa, in un processo di indipendenza dell'Italia dall'Austria non è possibile. Quindi questo significa appunto la fine di questa ipotesi politica moderata. E in questo senso quindi questo realismo, questo iperrealismo dei moderati italiani pare venir meno di fronte all'esperienza del 48. Non credo a questa differenza di mentalità, a questo ruolo diverso che ha giocato la tradizione filosofica in Germania e in Italia. Non perché la filosofia italiana diciamo, non abbia lo spessore teoretico della filosofia tedesca, su questo non c'è dubbio, ma perché sostanzialmente i problemi che si pongono nel 48 ai moderati sono, come dire, in qualche modo problemi non previsti. E quindi qui non è appunto una diversità di tradizione filosofica che rende appunto probabilmente i liberali tedeschi più attenti al problema della costituzionale e i moderati italiani invece più concreti. Anche qui i moderati italiani hanno puntato, diciamo, su alcune possibilità di soluzione del problema politico italiano. Queste possibilità di soluzione le hanno elaborate nel corso di un trentennio. Queste possibilità di soluzione non si sono realizzate nel momento in cui sembrava potessero realizzarsi. E quindi voglio dire in questo senso che questo della tradizione filosofica, insomma, non so, perché poi in realtà la tradizione filosofica quando entra nei momenti decisivi della storia, insomma, in cui si fanno delle scelte politiche, forse non so quanto possano, diciamo, in qualche modo giovare. L'altro tema che è stato sollevato è questo del rapporto tra conservatorismo italiano e moderatismo italiano. Ecco, io credo che appunto un elemento che vada sottolineato molto fortemente è che il moderatismo italiano copre sostanzialmente un'area di centro e che con una posizione, diciamo, conservatrice sia difficile stabilirla, ma quando parlo di una tradizione conservatrice parlo appunto di un conservatorismo che si richiama in qualche modo, per esempio, a Barchi. Non mi risulta che, per esempio, in Italia, non lo so, può darsi anche, ma non mi sembra che ci sia una penetrazione del pensiero conservatore inglese, per esempio, in Italia. Atteggiamenti filo britannici in Italia si avranno intorno agli anni 13-15, ma poi questo è un, diciamo, un componente che scompare e che riappare, semmai, ed ecco un elemento che in qualche modo caratterizza anche la posizione cavuriana, che riappare proprio con Cavour. Cavour non ha più come riferimento l'esperienza degli ideologi francesi, dei dottrinari francesi. Non ha più di fronte l'esperienza costituzionale che è nata dall'89. Sostanzialmente egli pensa al modello inglese, sostanzialmente egli pensa all'esperienza. Là egli ha diciamo, fatto, su questo diciamo, si è discusso molto per, tra l'altro, affermare una presunta esterofilia del liberalismo cavuriano. Non si tratta di questo, ovviamente, si tratta che evidentemente Cavour ha in mente un altro modello di sistema parlamentare, un'altra esperienza che è sostanzialmente proveniente da, come Romeo l'ha dimostrato, sì, da un'area diversa. Quindi Parigi come sede del liberalismo sì, ma fino appunto a una certa esperienza, credo che appunto da questo punto di vista Parigi non sia più, dopo il 48 e non soltanto per gli avvenimenti francesi, non sia più il punto di riferimento di una politica costituzionale. Se dimentico qualcosa, eventualmente sulla questione del travolgimento dei moderati, quindi mi pare di aver accennato alcune cose. Poi questa questione della debolezza della corrente moderata, io non ho affermato che la corrente moderata in Italia sia debole, la stessa ampiezza che essa ha dimostra semmai la sua vitalità. Il problema non è della debolezza della corrente moderata, il problema è sempre quello del risultato che il 48 decisamente determina di questa esperienza. Hanno forse più terrore di un esito eccessivamente radicale sul piano sociale e quindi preferiscono proprio politicamente e militarmente una politica attendista nei confronti dell'intervento piemontese, che di fatto significa la condanna al 48. L'esperienza veneta, per esempio, studiata da Paul Ginsburg e poi anche i vecchi studi della Perugia, che secondo me sono sempre validi da questo punto di vista, mettono in chiaro come proprio è sul piano della politica concreta e dei rapporti sociali che l'ipotesi moderata viene meno. Poi dovrà esserci una soluzione differente, no? Appunto quella che non tengo. Scusa. Sì, sostanzialmente poi questo è il problema. In realtà il moderatismo nel 48 si dimostra impreparato a controllare, perché appunto il giudizio sul quale forse siamo veramente in disaccordo è questo giudizio sul 48. Io non credo affatto che il 48 italiano sia un fenomeno leggero. Il 48 italiano ha una forte consistenza, è un momento politico di grande rilevanza nella vicenda italiana. Problema della lega doganale e della rete ferroviaria, questo è un problema che, come si dice a Roma, comporta una caterva di temi, una massa di temi. Io ho detto appunto che Cavour privilegia, qui il problema è di scelte immediate. La polemica Cattaneo-Cavour sul problema dello sviluppo della rete ferroviaria è successiva, è successiva al 60, quando si tratta appunto di fare alcuni trafori passaggi sulle valli alpine, comunicazione con la Svizzera, eccetera. Cavour, invece, ho detto, coglie immediatamente la rilevanza politica della unione verso Occidente, quindi verso la Lombardia. E qui il problema del sviluppo della rete ferroviaria lombarda veramente comporta una serie di grossi problemi che non è il caso di discutere, perché la rete ferroviaria italiana, la rete ferroviaria lombarda, subirà traversie complicatissime a spiegarsi, insomma. Sul problema Sismondi, sono d'altra parte la collega Sofia ne sa forse più di me su Sismondi, che è soltanto un mio vecchio amore, ma sul quale non ho poi... È un amore attuale della scienza. Continuato le mie ricerche. Direi che... Speriamo che abbia degli amori. Direi che proprio l'osservazione di Balbo su questo confusione in Sismondi tra le repubbliche comunali, tra le repubbliche antiche e le repubbliche moderne, cioè quella sopravvivenza delle repubbliche moderne, Ginevra appunto, Venezia eccetera, conferma questo giudizio che tu davi, cioè sul fatto che non vi sono evidentemente alcun compiacimento romantico nell'osservazione di questo mondo del Medioevo, vi è una ricerca delle caratteristiche, diciamo, politico-istituzionali di questo fenomeno, e non è un caso anche qui che Romagnosi si troverà completamente d'accordo con Sismondi e dirà soltanto: mi pare che Sismondi ha trascurato la continuità della tradizione della città romana e quindi del diritto romano nella rinascenza dei comuni medievali. E quindi c'è, voglio dire, una sostanziale concordanza nella comprensione del fenomeno, della visione del fenomeno dei comuni come un fenomeno appunto che non viene letto in questa chiave appunto del medievalismo romantico, ma in tutt'altra chiave di lettura. La critica alla Rivoluzione francese è la critica a Napoleone, sì, è la critica a Napoleone in gran parte, ma è anche la critica alla rivoluzione. Qui per esempio bisognerebbe ricordare il saggio di Manzoni, che è posteriore a questo periodo, il saggio di Manzoni sulla rivoluzione italiana e la rivoluzione francese, ma questo tema appunto della illegittimità della rivoluzione francese, perché non deve risolvere il problema nazionale, e quindi è una, diciamo, rottura del principio appunto di legittimità e non si giustifica, va letta credo in questa chiave proprio che comporta un giudizio che si rivolge non soltanto alla condanna del napoleonismo, ma anche alla condanna proprio della rivoluzione francese nel suo complesso. Sono d'accordo sui grandi studi sui comuni che nascono dal Sismondi e dall'incontro con Balbo, sottolineerei che proprio una cosa sulla quale mi sono soffermato, che la pubblicazione del saggio di Sismondi dà vita in Italia a tutta una ricca pubblicistica sulla quale poco sappiamo, di ricerca sulle origini dei comuni, e a un dibattito che, diciamo, si confonde anche per molti aspetti con la ricerca antiquaria, il problema delle ricerche delle origini italiche, il problema della ricerca delle origini della storia italiana, e c'è una grandissima fioritura. Appunto nel 24, ho accennato prima, per esempio riappare a Milano la storia di Milano di Verri, che è la risposta a una storia di Milano pubblicata dallo zio di Rosmini, che è una storia di Milano proposta in chiave neoguelfa, e se ne pubblicano tante, Cantù, la storia di Como mi pare che Cantù scriva, no? E così via. Quindi anche c'è questo... No, no, ma c'è tutta una grande fioritura di ricerche sulle storie comunali, c'è una grande fioritura di ricerche su questo. La storia di Milano è dello zio, ma non dello zio. Credo che fosse lo zio di Rosmini. Zio Ambrogio è architetto, pittore, urbanista, eccetera. Perché c'è una differenza generazionale molto netta tra i due. Palazzo di Fronte, anche lo dico, Roberto. Sarebbe interessante anche sentire qualche parola su Peregrino Rossi, qua adesso, non so se sia il caso. Forse anche se possa esistere accanto al moderatismo e conservatorismo anche una certa forma di personalismo, forse l'esperienza del XX secolo potrebbe illuminare dal di dentro, forse ho partecipato recentemente a Stresa all'incontro su Chiesa e Stato di Rosmini, Netta Dante, Cotta, Livia Caetano, Montabelli, Del Noce, hanno parlato ampiamente. Credo che ci sia un sottofondo nella prima metà dell'Ottocento estremamente ricco, vero? E esula da questi schemi, da queste categorie, e forse potrebbe anche passare oltre. In Europa ci sarebbe un corpo presente, vero? Che pure, vero? Entrerebbe in una visione purtroppo io ricordo proprio a Rovereto quando insegnavo, però che c'erano i miei colleghi che si erano autocircoscritti solo a certe figure. E così hanno perduto la chiave interpretativa di noi. L'indipendenza italiana legata all'Italia settentrionale, ecco, io su questo dissento, nel senso che la prospettiva di Balbo è la prospettiva complessiva, che il ruolo del Piemonte sia un ruolo settentrionale, questo sì, ma che il problema dell'indipendenza si ponga complessivamente per tutta l'Italia... A tappe, proprio Balbo... No, che... non possiamo più permettere... Cioè, la posizione di Balbo nelle speranze è molto... La posizione di Balbo su questo problema è molto netta, cioè Balbo dice abbiate pazienza... Per semplificare, abbiate pazienza, non preoccupatevi se il Piemonte eserciterà l'egemonia sull'Alta Italia, che nella tradizione italiana significava poi l'egemonia sull'Italia, perché questo tornerà a beneficio di tutta l'Italia, con una proiezione mediterranea del Regno di Napoli, del Regno delle Sicilie, e un ruolo in qualche modo rinvigorito della Chiesa, che avrebbe, diciamo, in questo contesto, vero? Quindi l'indipendenza italiana era molto, diciamo, il problema di Balbo era, diciamo, complessivamente valutato, il problema dell'indipendenza italiana nel suo complesso. Ancora il problema dei molteplici scambi tra moderati e conservatori. Qui, appunto, il problema nasce dal fatto che le correnti conservatrici italiane, come qualcuno ha osservato, sono correnti, diciamo, molto più spostate a destra rispetto a quello che abbiamo sentito a proposito della posizione del conservatorismo. Anzi, direi che veramente è difficile cogliere caratteri specifici del conservatorismo italiano che delineino nettamente la sua presenza. In sostanza, voglio dire che quest'area moderata è in qualche modo, diciamo, copre una area conservatrice in qualche modo, e che appunto nella tradizione, appunto, che qui abbiamo chiamato conservatrice, vi siano indubbiamente forse elementi di reazionarismo, e non è un caso, appunto, che questo conflitto poi con l'Austria, a cui accennava ieri Ara, emergesse in sostanza, perché questi conservatori italiani in sostanza non gli andava bene che la restaurazione non avesse restaurato i vecchi equilibri sociali, non gli andava bene che la restaurazione non avesse restaurato i vecchi rapporti tra Stato e Chiesa. Quindi in sostanza, voglio dire, erano effettivamente molto spostati, diciamo, in senso reazionario, mi pare. Qui sarebbe anche il caso di ricordare che la stessa recezione di Haller nel pensiero conservatore italiano è una recezione sostanzialmente reazionaria, cioè di Haller si coglie sostanzialmente questo elemento, sì, e ho finito, questo elemento della riaffermazione, appunto, del vecchio ordine, e basta, mi pare. Grazie. Wir haben jetzt weder die Zeit noch die Ruhe, um Conclusioni zu ziehen. Und so kann ich jedenfalls nur ganz wenige Beobachtungen, die sich vielleicht jetzt im Moment schon formulieren lassen, anschließen. Ich sage es betont langsam, dann wird es wohl auch von den italienischen Freunden verstanden. Erstens könnte man sagen, die Grenzziehung zwischen den Revolutionen hat sich großenteils als richtig erwiesen. Denn wir haben ja einmal gesehen, wie alle von uns behandelten Bewegungen durch die Französische Revolution ausgelöst worden sind und wie zum anderen alle Bewegungen 1848 zu einem gewissen Ende beziehungsweise zu Neuformulierungen gekommen sind. Man könnte da ja gerade noch auf diese toskanischen Moderati verweisen, von denen Sie gesprochen haben, die lauter um die Anthologia, Für alle diese Kreise dort hat sich 1848-49 herausgestellt, dass die Zusammenarbeit mit der großherzoglichen Regierung nicht ausreichte. Dass sich dann einige wie Ricasoli zunächst zurückziehen und dann einige Jahre später auf der piemontesischen Seite stehen, zeigt die große mentale Veränderung. Andererseits hat sich aber auch gezeigt, dass die Revolution kein völliger Anfang und kein völliges Ende ist. Wir haben auf der einen Seite ja erfreulich oft gesehen, wie sehr eben Einwirkungen aus dem aufgeklärten Absolutismus, aus dem Reformismus des 18. Jahrhunderts in die Anfänge unserer Bewegungen übergehen. Und wir haben zum anderen gesehen, gerade am Beispiel der Wasserscheide 1848-49, wie Anregungen unserer Periode erst nach 1848-49 dann zur politischen Konkretisierung gelangen. Zweitens könnte man sagen, was so die drei großen Bewegungen angeht, die wir untersucht haben, so ist ja erstens klar geworden, dass im deutschen Bereich die konservativen Mächte und Ideologien stärker, traditioneller und weil stärker auch handlungsfähiger waren. Und für den Liberalismus hat sich ja auf der italienischen Seite herausgestellt, dass am Anfang gerade dieser moderaten Bewegung die wissenschaftlichen, kulturellen, historischen Initiativen sehr stark sind, dass erst eine ganz allmähliche Politisierung erfolgt, dass die Bewegung erst am Ende der 40er Jahre eine wirklich voll politisch handlungsfähige Bewegung ist. Aber es hat sich ja wohl auch herausgestellt, wie stark für die politische Selbstfindung, die historische Selbstfindung gewesen ist, das Auffinden einer einheitlichen Geschichte ermöglicht, das einheitliche politische Handeln. Andererseits müsste man ja bei diesem Moderatismus, der ja an seinen Grenzen nicht festkonturiert ist, vieles hineinnehmen, was wir als liberalen Katholizismus bezeichnen würden. Oder reformkatholische Tendenzen. Und was Herr Bussmann für Deutschland behauptete, dass man die Geschichte des 19. Jahrhunderts nicht schreiben könne, wenn man nicht die Geschichte der Kirchen und der Theologie mit einbezöge, hat sich ja für Italien noch viel direkter als eine soziale und politische und geistige Realität erwiesen. Und was die dritte Strömung, eben den Jakobinismus, die Linke angeht, da ist es sicher für uns Deutsche hochinteressant gewesen zu sehen, dass in Italien dieser jakobinisch-linke demokratische Strom, wenngleich zunächst nur in vielen kleinen Rinnsalen fließend, doch eine viel größere Bedeutung für die italienische Geschichte, auch für die Ausformulierung des italienischen Nationalprinzips gehabt hat als bei uns. Man sieht aber gewisse Kontinuitäten der Geschichte der beiden Nationen, wo in Deutschland, Österreich, wobei ja für diese Zeit wir nicht zwischen Deutschland und Österreich unterscheiden brauchen, sonst müssen wir auch zwischen Deutschland und Bayern unterscheiden, dass eben das Gewicht der konservativen Kräfte und Mentalitäten im deutschen Bereich viel größer ist und gewisse rechtere Entwicklungen auf der deutschen und liberalere Entwicklungen auf der italienischen Seite doch in lang zurückliegenden Entwicklungen angelegt sind. Ganz zum Schluss, wir hatten uns vorgenommen, über Institutionen und Ideologien zu sprechen. Wir haben vielleicht zu wenig über die Institutionen gesprochen. Wir haben über die Ideologien gesprochen, haben sie von allen Seiten aus den Ursprüngen beleuchtet, aber über das Funktionieren der Staaten, über die staatlichen Institutionen, über die Verfassungen, über die Parlamente, haben wir zu wenig gesprochen. Es ist unter Umständen eine Bitte an die Redner, wir können das einmal schriftlich formulieren, bei der Ausarbeitung der Texte für den Band vielleicht diese Seite noch etwas stärker zu betonen. Außerdem ist mir erneut die Frage gekommen, ob nicht unsere Themen doch etwas zu breit gewählt sind. Wir haben große Gesamtanalysen bekommen, Gesamtpanoramen, die äußerst nützlich sind. Vor allen Dingen, weil sie der Bequemlichkeit eines jeden entgegenkommen. Die Italiener haben jetzt einen großen Einblick in die deutschen politischen Entwicklungen und wir umgekehrt. Aber man hätte vielleicht noch mehr auch auf Forschungsprobleme eingehen sollen. Diese Kritik ist auch aus dem Kreise der Stipendiaten vorgebracht worden. Das heißt, man müsste sich vielleicht noch mehr bemühen, die Darstellung dieser Gesamtentwicklungen mit der modernen Forschung, mit den derzeitigen Kontroversen zu vergleichen. Und vielleicht sollten wir auch bei diesen Seminaren gelegentlich unsere Themen enger halten und gerade in dem Zusammenhang, auch nach den letzten Diskussionen hier, erscheint mir die Frage der Kontakte, der geistigen, kulturellen Kontakte und eben auch der Bilder, die die einen von den anderen hatten, gerade für das 19. Jahrhundert, ein höchst interessantes Thema, welches wir ja einmal aufgreifen wollen. Man würde dann zu höchst interessanten Einsichten in das Werden eines gemeinsamen politischen und kulturellen Bewusstseins in Europa kommen und zu manchen Kontakten zwischen Kultur und Politik, die hier immer nur mal so kurz angedeutet werden konnten, Einflüsse Savignys, dann wurde der Name Raimond und Mittermeier erwähnt. Also vielleicht ist es an der Zeit, auch diesen vielfältigen italienisch-deutschen Kontakten noch einmal nachzugehen. Damit, glaube ich, können wir für heute schließen, aber wir schließen mit dem obligaten Dank, mit dem Dank einmal an das Institut und an die vielen Gesprächs- und Austauschmöglichkeiten, die Paolo Podi und die Seinen alle miteinander uns gewährt haben und gewähren. Und dann würde ich eigentlich sagen, mit dem Dank an alle. Denn es ist wieder einmal einigermaßen gelungen, eine Atmosphäre zusammenzubringen, in der die historisch-politische Diskussion und das angenehme menschliche Miteinander umgehen übereinstimmen. Letzteres ist ja nicht so häufig anzufinden. Und wenn es zustande gekommen ist, wenn man sich also trotz unterschiedlicher Meinungen gut verstanden hat und freundschaftlich miteinander umgegangen ist, dann ist das das Verdienst aller. Und deswegen wäre es schön, wenn wir solche Gruppierungen und Gemeinsamkeiten hier noch öfters zusammenfänden. Grazie a tutti e a presto. Danke.